se cioè, ci abbiamo voluto, ed era anche doveroso, credo, no? Dico, convocare quell'area di persone, poi non so se l'abbiamo fatto in un modo che sono stati convocati tutti, no? Nel senso di dire, ecco, io ho mandato via le mail, per esempio un problema che lo premetto subito, che la Gisella Introzzi, che è stata via una settimana, però ha detto che non aveva ricevuto la mia mail o la tua, no? Quindi purtroppo avevo già un impegno e mi ha espresso di dire che le dispiace di non essere qui stasera, no? Anche perché questo l'ho detto qualche giorno fa, io pensavo che fosse dentro nella mia lista, poi non so chi gliel'ha detto, se fosse Giuseppe o qualcuno. Sì, sicuramente Sassi Maggiorale. Sì, sì. Allora Luca l'ho visto ieri sera e non so se aveva un altro impegno. Mesolaro però è spesso via per lavoro in questi giorni, però mi aveva detto che sarebbero venuti, a meno che sia via per lavoro. Io ho sentito, guardate, anche oggi personalmente, dico, poi però questo non è che giustifichi nulla, no? Una decina di persone che avevano degli altri impegni, no? Che gente che era sempre venuta, che era sempre intervenuta, non so, poi voi avete avuto occasione, però questo non giustifica il fatto, e dopo ne prendiamo atto, no? Che la presenza di stasera, che ringraziamo, ci ringraziamo tutti, no? Di essere qui, però è meno numerosa rispetto alle altre volte, e questo poi alla fine ci dovrà fare anche riflettere, no? Ci dovrà fare anche riflettere, no? Perché sicuramente. E comunque il tema di questa sera, secondo me, è da una parte di anche fare delle valutazioni, no? Tra di noi. Sulle primarie, noi avevamo avuto le primarie, primarie vere, abbiamo fatto un sacco di incontri, discussioni, tutto cosa molto positiva, no? Secondo me. E le primarie ci sono state, ci sono qui anche un candidato. Io ho invitato anche, ecco, una cosa che non ho fatto, e mi scuso perché in effetti non ce l'ho pensato, non è che non so se qualcuno di noi ha invitato Lucini, per esempio. Qui abbiamo forse, ecco, dico, anche un po' sintomatico, parlo per me, dico così, di questo, perché l'ho tolto, ho contato gli Antonio, ma io posso venire, il capo di non può venire, se uno chiede, no? Anzi, dico, lo spazio c'è, però forse non abbiamo avvisato nel modo più canonico, no? Anche altri candidati. Questo è un errore, dico, perché ci ho pensato stasera mentre venivo da Lecco, ho detto, oh, se però poi telefonare alla sera mi sembrava non corretto, no? Discutere, secondo me, di quello che del nostro percorso è importante, discutere di quello che è successo è importante, ma io credo che sia altrettanto importante discutere del presente e del futuro, no? Di quello che sta avvenendo e che avverrà come, no? Perché io credo che di interpretare anche il pensiero forse di molti, che quando eravamo partiti con le primarie vere, perché avevamo in mente non soltanto le primarie vere, ma come momento di passaggio per arrivare poi a una campagna elettorale vera, no? A una presa della città vera, no? Diciamo, con delle nostre idee, con delle nostre proposte, con delle nostre uomini e donne, giovani e meno giovani, no? Che debbano andare a governare questa città. E io credo che questa sera sia questo anche il tema, no? Senza per questo non fare un'analisi, anzi è doverosa, di quello che è successo, no? Ognuno dice poi la sua, no? Su questo. Io voglio essere sintetico e dopo mi ripropongo di fare un intervento dopo eventualmente. Credo comunque, per quello che è la mia esperienza, poi c'è Marta e Marco che hanno seguito anche gli aspetti organizzativi, e senza, li inviterei a dare un loro giudizio, no? Anche di quello che c'è stato, perché anche l'aspetto organizzativo è una parte politica, no? Capito? Non è soltanto mettere fuori quattro manifesti, eccetera, ma vuol dire anche creare delle relazioni che ci sono state. Per me il discorso delle relazioni è un discorso importante. Relazioni sia personali sia politiche, che sono importanti, perché personalmente, lo dico già da subito, io avevo puntato e punto molto sul discorso del centro-sinistra, cioè nel senso di dire, con delle diversità, con delle posizioni sicuramente non uguali, ma io le voglio far diventare una ricchezza e vorrei che per tutti diventasse una ricchezza questa, però all'interno di un discorso di centrosinistra, quindi di un discorso, perché il tema penso, no, che sia quello che, per il quale ci eravamo anche costituiti, che era quello di andare a governare questa città, questo territorio, questi cittadini, no? Poi si possono fare anche altri e si debbono sicuramente fare anche altri discorsi, però teniamo conto che il nostro obiettivo è quello adesso di andare e di prepararci a vincere una gara elettorale che si risulterà durissima, perché qualcuno comincia ad avere anche paura, no, di questa nostra, anche se non lo dice, e che cerca quindi di, poi di far emergere delle differenze che però sono di basso livello, ecco, diciamo così, no? Invece io credo, io siccome ho investito molto, no, personalmente, come penso anche tutti voi, no, su questo percorso, no, sicuramente forse anche, sicuramente anche in modo diverso, ma stiamo investendo molto su questo percorso, io credo che il momento oggi è quello di proseguire questo cammino, di articolarlo meglio, di creare un maggiore dibattito, di creare un percorso che sia anche molto concreto, no? Cioè, nel senso, al di là del fatto poi della grande discussione, io vorrei che ci fosse anche una concretezza nelle nostre proposte, perché altrimenti si rischia poi dopo di non affrontare i problemi i temi che sono all'ordine del giorno. Che, attenzione, perché poi si mischiano aspetti legati anche a cose che forse qualcuno di noi tante volte non considera, no? Dobbiamo preparare delle liste, dei nomi, delle possibilità di oltre che al programma, alla formulazione del programma, eccetera, così, no? Io una cosa che mi permetto, che ho raccolto da lei prima, no? Io credo una cosa molto, molto forte. Ha vinto il candidato che è Lucini, un candidato che deve rappresentare il centrosinistra, però, secondo me. E anche se immagino che qualunque candidato, no, avesse vinto il nostro Magatti, no, probabilmente avrebbe dovuto rappresentare il centrosinistra, non il gruppo di Paco, no, capito? Questo è importante, e secondo me questa è una delle cose che dobbiamo rivendicare in assoluto, perché altrimenti se ha vinto un gruppo, no, dico, all'interno, che è vero, no, dico, quindi con, però sicuramente il percorso successivo nasce non bene, e io dico, per quanto mi riguarda, la mia proposta, la mia richiesta è che venga rispettato tutto il centro-sinistra nelle sue componenti, e quindi noi dovremo sicuramente andare a proporre, a rivendicare questo ruolo. Perché se cominciamo invece, che poi lo divido dal discorso poi delle liste, le liste è poi dopo un aspetto che vendo anche in un altro momento, che perché sono, fanno parte della proposta anche politica, del progetto anche all'interno, attenzione, perché poi però ha vinto e deve vincere sicuramente il centro-sinistra, non la logica o di un partito, perché l'abbiamo sempre detto in continuazione che non erano le primarie del Partito Democratico, ma non perché, ma perché non erano le primarie del Partito Democratico. Se fosse andato le primarie del Partito Democratico, io avrei potuto partecipare o non partecipare secondo la mia volontà, no? Io e con me sicuramente, e con voi e molti altri, hanno partecipato anche perché erano le primarie del centro-sinistra, e questo secondo me deve essere detto chiaro, no? Chiaro anche nei termini rispetto a chi ha vinto e rispetto a chi ha perso, no? Diciamo, all'interno delle primarie, perché è logico, uno vince, gli altri perdono, non è che dobbiamo però quello che perde, no, a un certo punto poi di essere escluso oppure andare poi dopo a logiche contrattualistiche su cosa. No, deve vincere la politica, no, secondo me, no? Anche in questo momento, perché se vince la politica è fatta in un certo modo, no, vinciamo tutti, no? E siamo sicuri di essere in grado anche di andare a governare. Io concludo qui per adesso, volevo soltanto un minimo, volevo dare la parola, non so se a Marta o a te, non so, dico, chi di voi vuole illustrare anche un attimo il percorso che c'è stato, no? E la vostra impressione, no? Così. Io mi tengo i tempi. C'era De Sidra. Ci metto 2 minuti. Non ci capisco. E sono 3. Dopo ci sono scritti i minuti, Luca. No, ci metto un minuto solo. No, diamoci dei tempi. Sì, facciamo 3-4 minuti. 3 minuti, 5 minuti. 3-4-5. Non incarbogliamoci. Siamo 4 gatti. E non ha ancora iniziato. Hai visto che sono 4 gatti, non c'è competizione. Non c'è competizione. Prima roba che voglio dire è che non so bene perché sono seduto su sta sedia qui, perché a me pare che è importante questa cosa, nel senso che qui secondo me non c'è struttura organizzativa, non c'è in questo momento, io credo che abbiamo principalmente un problema di identità. E quindi non esiste veramente in alcuna maniera un modo per cui qualcuno rappresenti qualcun altro, anche non abbiamo nemmeno un nome, faccio presente in questo momento, dato che è scaduto anche il primario avere per Como che abbiamo usato fino ad adesso. Quindi io credo che fondamentale sia risolvere questa sera un problema di identità nostro, prima ancora di andarcene a affrontare con chi che sia l'altro. Quindi direi che invece secondo me non è considerabile un errore il fatto che noi stasera non si sia insistito verso i candidati delle primarie, per essere, io sono felicissimo di vedere che Bruno Magatti sia qui comunque, ma sinceramente questa cosa, un invito in questo senso a compartecipare a un qualcosa nasce solo se questo qualcosa ha sostanzialmente una forma, un'identità. E quindi, se ci riusciamo, per la prossima volta io spero di avere qui tutti e quattro i candidati. Per adesso io credo che tra di noi, che siamo veramente pochi testardi rimasti, dobbiamo capire che cosa siamo qui a fare, in che maniera ci vogliamo rapportare con tutti i problemi che hai tirato fuori, tu sei forse scappato anche forse avanti, liste, cose, eccetera. Io credo, esiste la possibilità di far pesare dal basso, in una maniera come quella che abbiamo sempre fatto, anche istanze che rischiano di essere tagliate fuori da quello che sarebbe il naturale percorso di un candidato verso le elezioni. Io penso di sì, spero di sì, però qua dobbiamo capire come lo vogliamo fare. No? Allora, io chiacchierando con amici ho visto che in realtà non ci sono posizioni che non sono del tutto omologhe su questo, voglio sentire la tua presenza. Bisogna avere la chiarezza di capire se siamo qua tutti quanti a partecipare all'interno di una coalizione di centrosinistra di cui noi a questo punto siamo parte integrante, abbiamo firmato una più benedetta accordo all'inizio, e se lo vogliamo fare fino in fondo questa cosa non si può che farla con il candidato sindaco, e io spero anche con gli altri candidati che hanno portato fino adesso il loro contributo, no? E che in qualche maniera non può che essere un contributo supplementare a quello del candidato sindaco. Anzi, scusatemi, forse complementare sarebbe una parola più giusta. Niente, detto questo, io credo che secondo me vi inviterei già subito a interloquire su questa cosa qui. Cioè, cosa diavolo siete qua a fare? Perché io sinceramente stasera ho preso solo la macchinina, sono venuto qua e non so dirlo. Io avrei avuto l'ambizione di poter discutere in una maniera più larga, quindi sostanzialmente di avere già naturalmente la forza di poterci costituire in qualche modo. Ma il verde è finito il verde. Vai. Che no, ho detto qualche cosa. Si è capito bene. Io vado lo scrutatore 14 ore per vedere nel mio quartiere i volti di quelli che venivano a votare. Sono rimasto estremamente stupito, perché questa gente che è venuta a votare le primarie era 5, va a votare le politiche, noi vinciamo, perché ho visto stranamente alcune persone che sinceramente non credevo facessero parte della nostra area, alcune le conoscevo anche. Ho visto quindi un'evoluzione in senso estremamente positivo, no? Per cui quello che noi abbiamo realizzato rappresenta un po' questi cittadini. Questi cittadini generalmente di gente partiticizzata ce n'era pochissima. No? Ho visto una grande partecipazione di donne, peraltro, no? E ho visto una grande partecipazione di ceti medio-alti, anche, no? Che se vuoi vincere devi pure fare quello, insomma. Per cui credo che noi dobbiamo semmai oggi riorganizzarci con un compito nuovo, quello di essere uno dei soggetti che porta la vittoria alla lista del centro-sinistra, proprio perché noi siamo abbastanza svincolati da alcune logiche, perché facciamo delle differenze nostre un patrimonio, no? E non un elemento... E soprattutto perché al di là di come la pensiamo rispetto al governo attuale, no? Ai modi di fargli opposizione, altra è la strategia per conquistare il comune, no? In una situazione estremamente pericolosa, il 50,2% dei cittadini italiani dai sondaggi non andrebbe a votare, no? Che è il dato enorme, l'ultimo che ha dato, no? Quindi stiamo in una situazione di prequalunquismo, no? Con un sommovimento nei partiti pazzesco. Proprio noi che siamo più sereni di altri, però dobbiamo innanzitutto darci un'organizzazione, scegliere almeno un portavoce, un comitato esecutivo, no? In modo che ci sia dei referenti permanenti che, no? A quali rivolgersi, no? Se no diventa un lavoro disperso, non possiamo basarci su un fenomeno di spontaneismo. Ora, siccome, qui concludo, abbiamo in fondo selezionato nel vivo, no, la presenza di alcuni amici che io ritengo, compagni, che io ritengo da un punto di vista almeno della mia esperienza politica e sociale, dirigenti potenziali con buone qualità, no? Se volete vi potrei anche fare i nomi, ma è spiacevole, no? Quelli che abbiamo utilizzato secondo me sono già un gruppo dirigente. No? Che va, secondo me, ufficialmente confermato dandogli questo compito dirigente di trattare anche le liste, no? Con le altre forze politiche e con gli altri candidati tutti, no? Perché altrimenti rischiamo la dispersione. Stasera non saremo molti, ma se cominciamo ad avere un nucleo organizzativo ci possiamo meglio aggregare. Ottimo. Io sono d'accordissimo, perché noi stessi, nel poco che abbiamo fatto, non sappiamo mai chi fa cosa. Chi fa cosa, quando, come si fa, per cui Lucini, che probabilmente non era a caso che fosse invitato stasera, non diceva Marco, ma un sacco di cose vengono lasciate correre proprio perché non c'è un referente o un gruppo che ha veramente il compito di tirare le fila dei discorsi, e questo è necessario, ed è necessario capire cosa vogliamo fare, come dicevi tu, darci un nome. Dico io. Beh. E però non vale. Dammela a me. Allora, io dico che secondo me comunque l'esperienza regionale è stata molto positiva, il comitato organizzatore era piacevole ma poco creativo, però forse nelle primarie ci sta anche che ci sia un po' di rigidità, non lo so, non te le faccio. Il numero di elettori che sono arrivati, secondo me oggi, in un momento di disaffezione politica così acuta, è stato, penso, un grande successo. Sì, su una chiosa questa cosa qui. Nel comitato organizzatore è vero che si è sperimentata una coalizione di centrosinistra attiva. Sì. Grazie. In sei, io e te, cioè di tutta questa assemblea, io e lei abbiamo condiviso una partecipazione alla coalizione di centrosinistra. Siccome questa cosa qui indubbiamente non può bastare a voi, direi che c'era moltissimo da fare. Come no, ma eravamo scrutatori noi, quindi anche noi avevamo a che fare con altra gente del centro-sinistra. Ah, nel senso di sì. Allora, io dico una cosa rispetto a il ruolo che noi ci proponevamo era fare le primarie, quello l'abbiamo ottenuto. Io parto proprio da lì. Non era così scontato, sono state fatte per di più portando 1500 persone in più rispetto alle ultime primarie, quindi il risultato in parte, cioè io speravo di arrivare sui 5000, credo anche altri speravano in un numero di partecipanti superiore, però diciamo che non ci si è fermati a 2078 persone che hanno votato alle primarie, perché primarie per noi deve essere partecipazione prima di tutto. Perché se no, sì, se è una cosa che invece è rinchiusa fra è chiusa fra quelle persone che normalmente fanno politica, un po' si è ripetuta questa cosa ed è stato il limite della nostra esperienza, cioè siamo poi sempre gli stessi che ci muoviamo, eccetera. Però, come dice Claudio, qualche segnale di apertura ad altre persone, non so di che area, eccetera, questo io non l'ho valutato, però diciamo che c'è stata. La partecipazione ai stranieri è stata sul 5% rispetto al totale, tenendo conto che gli stranieri contano più del 5%, si arriva a cifre del 12%, 11-12% nella Convalle, potenziali votanti, erano 7.000 e passa votanti, avevo dato i pochi rispetto ai 7.000 potenziali, però qualcuno votava. Non siamo riusciti invece a portare, secondo me questo è il problema, i giovani, nel senso che se noi guardiamo il dato giovanile è molto inferiore al dato degli stranieri e questo è un problema. E allora io mi pongo il problema di come continuare su questa strada e come sollecitare il candidato che ora c'è su alcune tematiche che possono interessare i giovani. Ad esempio, io mi rammarico del fatto che in questo confronto si è parlato poco di programmi e mi rammarico del fatto che i confronti che ci sono stati noiosi, sostanzialmente noiosi, cioè si faceva difficoltà a capire le differenze, soprattutto all'inizio, poi ci sono state, devo dire che poi si è notato nel differenziarsi su alcune posizioni, ma con una difficoltà incredibile, perché probabilmente si ha difficoltà a confrontarsi, a essere abituati a confrontarsi. Un'ultima cosa, mi piacerebbe che da ora in avanti questo percorso servisse più sulla linea programmatica, cioè a mettere lì alcune idee che sono già uscite in questa assemblea. Io penso ad esempio alla questione dell'acqua pubblica o agli spazi di cultura, che sono usciti chiaramente, alcune indicazioni ci trovano d'accordo, cioè ricercare fra quello che è uscito, che è molto, ma è molto confuso, quelle cose che invece ci possono accomunare per il futuro e verificare se il candidato fa proprie queste cose, perché io non ho ancora capito su alcune cose. Ecco, quindi il ruolo di questa assemblea secondo me in futuro può essere quello di sollecitare il candidato del centro-sinistra a chiarire alcuni punti di vista rispetto a alcune cose, alcuni temi che ci stanno a cuore. Ultima cosa, mi rammarico di un fatto, che la questione crisi e lavoro non sia stata assolutamente affrontata fino ad oggi. E quindi la cosa che io personalmente vi ripropongo di fare è di sollecitare il candidato e la squadra che andrà a contrapporsi a centrodestra, cercando di capire quali sono i mezzi, anche alla luce di quello che sta avvenendo a livello nazionale. Si riparla di ICI, ad esempio. Come verrà utilizzata l'ICI, l'IMU, eccetera, se poi va in porto, mi piacerebbe capirlo. Su 11 miliardi di ICI ipotizzata, 9 miliardi rimarranno allo Stato, 2 miliardi andranno ai comuni. Questi sono i dati di stasera. Mi piacerebbe comunque, nell'esiguità di quello che andrà ai comuni, capire che idea noi abbiamo rispetto all'utilizzo di quelle risorse. Noi stiamo pensando anche a una class action nei confronti di questa giunta e di come ha gestito il bilancio questa giunta, ed è una cosa seria. Okay? Abbiamo un incontro con un avvocato la settimana prossima. Scusate se sono stato... No, dopo. Allora, io sono venuto perché ho ricevuto l'invito. Volentieri sono qui. Ho parlato in questi giorni alcune volte con Gisella e anche con Mario. Una delle, ovviamente non dico altre cose che viene guardando loro, però certamente ci sono alcune questioni che rimandano al che fare, che credo che siano rilevanti. Una è che fare, diciamo, di quei comitati, questo è un tema soprattutto che riguarda Gisella, ma in qualche modo Mario, in qualche modo anche me, anche se io ovviamente ho una, come dire, un gruppo dove sapete che è molto consolidato, di questi chiamiamoli comitati elettorali che hanno sostenuto le candidature, perché se, il parere mio non è che questi vadano liquidati, assolutamente, questi devono essere, anzi, secondo me, implementati e devono essere, come dire, il motore di quello che succede. La seconda questione, l'ho posta io, la pongo anche a voi, è una questione molto semplice. chiaramente con Mario, anche con Gisella, che insomma l'obiettivo non è partecipare. Bisogna essere molto più chiari che bisogna avere l'obiettivo di vincere queste elezioni. Cioè, su questo credo che ci voglia una grande determinazione. E proprio solo partendo da questa determinazione siamo in grado di fare un percorso che secondo me deve essere già cominciato da una settimana, ma insomma capiamoci, l'importante è che cominci almeno l'8 gennaio, giusto per avere una data, oltre la quale secondo me quel vantaggio che noi ci siamo costruiti generando una situazione che quella che le primarie ha costruito andrebbe riducendosi. Proprio per questo problema io credo che sia importante, oltre che vabbè, che qui l'assemblea, chiamiamola così, che si autodetermini in qualche modo, mantenga una presenza in quello che era prima il comitato plenario, che potrà diventare un'altra cosa, secondo me facilmente, anche immediatamente, è quello di dare a questa coalizione comunque un nome. Io credo che dobbiamo assolutamente spenderla questa cosa, non in questo momento, però dal punto di vista comunicativo è vitale. Mi piace quello che ha detto Cattaneo prima, perché sono probabilmente andati a votare alle primarie delle persone che alcuni candidati sono stati capaci di chiamare alle urne al di fuori semplicemente di appartenenze storiche. Questo è il processo che va fatto lievitare. E io mi permetto di dire, siccome come dire, esperienze ne abbiamo di questa cosa, che quello che dobbiamo spazzarsi dalla testa immediatamente è che qui l'obiettivo sia per qualcuno di prendere i voti che ha preso il primo vicino. Se lo siamo detti molto chiaramente anche con Mario, qui non si tratta appunto che qualcuno deve rubarti l'elettore, è una cosa assolutamente fuori buzza, ma ognuno deve essere capace di massimizzare il prodotto diciamo elettorale all'interno della sua area culturale. La cosa che diceva Luca, Fortitudine un attimo fa, cioè quella che alcuni temi non sono esistiti nel dibattito, che il dibattito sia stato oggettivamente debole, ma sono d'accordo anch'io, un po' era dovuto a una situazione di fair play necessario, cioè tu sai che quelle persone che ti sono accanto non sono tra virgolette degli avversari politici, ma sono dei concorrenti. E quindi ovviamente le spigolosità, le durezze, le polemiche erano assolutamente fuori luogo, perlomeno la percezione che avevamo un po' tutti era che questa cosa non si poteva fare. Però alcuni temi, dico, tu hai detto quello del lavoro e quello di bilancio, sono certamente dei temi centralissimi, non solo di questa campagna elettorale, ma di tutto quello che verrà dopo. La situazione che stiamo vivendo oggi ha degli effetti sul bilancio comune di Como assolutamente mastodontici, la cui soluzione e le cui risposte sono tutt'altro che ovvie e che devono essere costruite insieme, partendo da chi ovviamente gli elementi li conosce e li può condividere e chi invece ha prospettive, idee diverse e li mette a disposizione. Allora, in quale modalità andare a lavorare? Questo è il pensiero da mettere in campo da qui, io dico l'8 gennaio giusto per darci una data, un mese per capire come si deve lavorare. Io credo che non sia pensabile che tutti quanti si interessino di tutto, ovviamente, che sarà necessario fidarsi ovviamente che altri portino avanti e sistematicamente mettano a confronto il lavoro per quanto riguarda i temi. Ma il problema metodologico credo che sia, e nominalistico, siano i due elementi vitali per questo processo. Allora, io volevo dire alcune cose su come potrebbero andare le primarie, cioè il dopo primarie, perché ho già visto nel PD come sono andate certe cose. Nel senso che noi adesso abbiamo un grande vantaggio, che è quello di avere 3.500 nomi di persone, che sono un valore immenso per costituire una rete di comunicazione. E il PD purtroppo, quando ha fatto le primarie nazionali, non è stato in grado di ricontattare tutte queste persone, le persone che hanno votato le primarie, un po' per motivi di quelle che sono sempre le logiche di corrente e di mancanza organizzativa, secondo me. E questo per me è un problema gigantesco insieme alla comunicazione, perché è la spina dorsale della comunicazione, quello della relazione, sta nella relazione umana, che purtroppo il Partito Democratico fa fatica a relazionare un po' tutto il centro-sinistra, soprattutto noi come giovani, come gruppo di giovani democratici, ci troviamo di fronte al problema che abbiamo visto, la mancanza dei giovani che sono venuti a votare, ed è un muro che, soprattutto in una realtà come Como, non sappiamo come affrontare, perché in realtà come Varese, per esempio, usando metodi analoghi che vengono da Milano, a Varese funzionano un po' meglio, e bisogna trovare nuove strade, questo dico. Però dato che voteranno, secondo me è una cosa su cui bisogna riflettere, però il problema è valorizzare le persone che sono venute a votare, perché noi, io ho sempre ripetuto anche in sede di dibattito, così anche quando abbiamo fatto la conferenza regionale sul lavoro, noi siamo sempre abituati a contare le persone che vengono a votare, ma mai a farle contare, perché questo è il vero problema. E costruire, secondo me, la fabbrica del programma, come è stata fatta la scorsa volta, io non avevo partecipato perché ero troppo giovane e non ero coinvolto in queste cose, però secondo me è una cosa su che va fatta in un modo forse più coinvolgente rispetto a quello che potrebbe essere una modalità di assemblea da condominio, perché ognuno, cioè io vedevo un'idea un po' più propositiva di fare le cose, magari anche più interessante, proprio perché i dibattiti tra i candidati sono stati noiosi, quindi uno scopo dell'assemblea potrebbe essere quello di organizzare una forma di mobilitazione della rete civica che si è creata attorno alle primarie, per costruire un dibattito, il numero di fondo, che porti il candidato sindaco, la squadra fatta dai primaristi, non potrebbe essere un... a dialogare con i cittadini, che sono quelli che tanto sono venuti a votare e che potrebbero chiamare altre persone. Perché se non si costituisce questa rete, anche formata come nucleo di quartiere, perché siamo un buon gruppo, si può fare una mobilitazione sul territorio, soprattutto su quelli che sono i problemi Verzola, Civiglio, tutte le periferie, perché è lì che bisogna andare a toccare, e bisogna lavorare in questo modo qua, secondo me, perché i difetti, cioè vedendo i difetti del PD, uno capisce cosa bisogna fare, perché se il PD sbaglia bisogna correggere, soprattutto per la comunicazione, perché io ho visto alcune cose molto belle, soprattutto quelle fatte, ad esempio gli sponsor, cioè l'idea che aveva fatto Gisele Entrozzi sul dibattito con un personaggio, secondo me è interessante per toccare un certo tipo di pubblico, però bisognerebbe anche fare un percorso di conoscenza nelle periferie diverso rispetto a quello che è stato fatto finora. Anche il giro di tutti i posti che ha fatto Lucini, secondo me, potrebbe essere fatto in maniera anche migliore, visto che siamo in più e si può dare una serie di consigli. Credo che vada fatto proprio una valorizzazione di tutte le conoscenze per creare un nucleo di suggerimenti da dare. E vabbè, lo dico perché magari sembra... Stasera hanno fatto la riunione Lucini e il gruppo, proprio per evitare... hanno contattato parte del gruppo di sostegno, che extra PD, extra partiti, proprio per non perdere i contatti, e credo che questa cosa dovrebbero farle anche gli altri candidati e cercare di trovarsi tutti insieme per iniziare a costruire un percorso, forse prima di Natale magari. Noi abbiamo un database di quelli che hanno votato? Sì, dopo ce lo daranno, lo stanno mettendo dentro, ma ha detto in un foglio elettronico e poi dopo. Quella cosa è fondamentale per creare una... perché come PD le cose delle primarie nazionali sono funzionate malissimo, cioè un anno siamo riusciti ad avere i dati, quindi prima ce li abbiamo meglio. No, noi in teoria per una cosa di questo. Sì, dovrebbero, perché adesso la riunione del comitato organizzativo dovrebbe essere domani sera, ma visto che l'hanno rinviata martedì o mercoledì. C'è un sì. Io penso che sia diciamo, innanzitutto una soddisfazione che qui peraltro noi abbiamo già manifestato, essere arrivati a delle primarie vere, così detto, non in termini retorici, ma politicamente un risultato c'è stato importante. Io ho fatto parte del comitato che ha lavorato intorno a Gisele Entrozzi, no? E quello che ho percepito è una strana convergenza intorno a questa candidatura di alcuni che sostanzialmente fanno riferimento, che di carattere storico, alla sinistra radicale comasca, con settori, come diceva prima Cattaneo, no? Che provengono sicuramente da esperienze totalmente diverse, che sono quelle di centrodestra, ma che sono state motivate da un'esigenza di creare, e questo io penso sia stato un elemento importante, perché una candidata che non era, come diceva la stampa, veniva detto anche dagli addetti ai lavori, non conosciuta in città, è riuscita ad avere, facendo una campagna elettorale, facendosi conoscere anche con iniziative nuove, anche come modalità, parlo per esempio come si è presentata utilizzando anche supporto musicale, no? Intervallato di interventi politici, devo dire che ha alleggerito e reso, diciamo così, più sereno anche l'interesse delle persone. Questo è il dato, diciamo così, positivo. Poi ci sono dei dati negativi. Il primo, che è già stato sottolineato, è che sostanzialmente abbiamo fatto un primo tentativo tutti insieme, chi più e chi meno, per cercare di coinvolgere gli stranieri, e c'è stato un certo risultato, mentre invece veramente è preoccupante il dato della distanza che si crea fra le giovani generazioni. Quando dico giovani generazioni, io dico dei 30-35 anni venendo in giù. Adesso è stata teorizzata l'adolescenza che finisce a 35 anni, e adesso con le nuove leggi che stanno introducendo per le pensioni spostano in avanti la vecchiaia. Cioè, abbiamo dei dati ideologici molto confortanti rispetto almeno a persone che sono nate, prima sentivo dire l'anagrafe 52, io sono del 50, anno santo, quindi sono ancora più vecchio di quelli che prima si compiacevano di essere del 52. Cioè, il problema è che quindi abbiamo secondo me un dato estremamente, però insieme con quello dei giovani, e io per quello che percepisco non sono d'accordo sul fatto, perché era già successo anche per le elezioni comunali, la gente adesso esprime, quando ci sono i sondaggi, la volontà di non andare a votare, poi di fatto va a votare, vota, si esprime, e io credo, e lo torno a dire, io lo vedo più in città, anche nell'elettorato giovanile, con quella fascia dei 35 anni in giù, anche di elettori che hanno votato la Lega o il centrodestra, io vedo crearsi basi di consenso forte su Grillo. Grillo non è l'antipolitica, è una politica che in questo momento coinvolge e si dirige come protesta non solo contro il centro politico. Questa è la novità. Grillo se la prende con la Confindustria, se la prende col sindacato, se la prende con settori della magistratura, così si è espresso lui almeno l'ultima volta, l'ho sentito, sostanzialmente andando in un periodo di crisi delle istituzioni complessivamente considerate. Io vi dico che per quanto riguarda il mio lavoro, e penso Lilia da un altro punto di vista, o altri che operano a contatto con la pubblica amministrazione da altri punti di vista, la disgregazione progressiva degli apparati amministrativi dello Stato si manifesta sempre più in termini gravi. Quello che voglio dire, l'ho già detto in altri interventi, io credo che la campagna elettorale sarà giocata sicuramente sui programmi, dovremo fare uno sforzo, coinvolgere gli interessi, le persone, e io dico anche i contributi che sono stati dati da questa assemblea. Io mi ricordo un'assemblea molto importante dove erano intervenute delle donne che, partendo dalla loro condizione di lavoro, di famiglia, di vissuto personale, avevano introdotto temi politici molto forti, no? E quindi bisognerebbe cercare di fare questo. Però io quello che penso è che questa campagna elettorale qui sarà giocata pesantemente su quello che sono i condizionamenti di carattere nazionale. Già qualcuno ne ha parlato, forse di Turri. Io credo che queste elezioni a Como, per il contesto di radicalizzazione progressiva della crisi, le risposte del governo questa sera non è il tema di discussione, però quello che faccio presente è che chi dirigerà la campagna elettorale dovrà avere, diciamo così, occhio, no? Non solo e ascolto su quello che succede e si anima sulla città, ma anche su quello che succede nel paese, perché mai come in circostanze come queste gli stessi voti che sono stati dati alle primarie sono sicuri. Voglio dire che è un momento dove il consenso politico è difficilmente, diciamo così, ad alta fedeltà, perché ci sono quelle contraddizioni sociali, economiche, di disgregazione dell'amministrazione dello Stato che condizionano pesantemente e possono far cambiare parere. E su questo io torno a dire, l'analisi, io vi dico che non lo vedo solo sul territorio della città di Como, ma anche in provincia, il fatto che si stiano creando condizioni per un consenso notevole per la lista di Grillo anche nelle nostre zone deve farci riflettere e vedere cosa possiamo fare. Marciano. Sì, io quando si partì non feci a tempo che vai tardi per partecipare al gruppo promotore, però ho seguito tutto il percorso del primario e ho trovato un fatto di grandissima importanza dal punto di vista politico, una buona novità per la città. Io ho seguito in particolare il gruppo Gisella e sono rimasto molto positivamente impressionato da una presenza e da una partecipazione anche, non solo, anche giovanile, che è un'area parecchio distante, un po' molto laica rispetto alla e questo è e quindi non solo sono d'accordo assolutamente che questa è stata una prima fase, ma ci deve essere una seconda fase, dato che non si scioglie, anzi, no? Una seconda fase che proprio si prosegue, attenzione, perché il rischio di sciogliere le righe, no? È una cosa che quindi, potrebbe essere. Io dico che il darsi sicuramente comitato esecutivo, eccetera, ma attenzione, un comitato esecutivo che abbia anche il potere, primo, anche precisi poteri, primo fra questi, convocare i candidati, perché chi è stato, no, dentro nella rosa, eccetera, eccetera, ha usufruito di questo, di questa grande iniziativa, no, di coinvolgimento e di dibattito della città così importante e significativa come c'è stata. E sono particolarmente d'accordo con l'affermazione di Magatti quando dice che gli stessi comitati elettorali non devono essere i comitati elettorali di Tizio, Caio e Sempronio, ma devono essere coinvolti, no, in quel principio unitario che è stato il principio istitutore del comitato, cioè di una linea da centro-sinistra. Da centro-sinistra in un'area così eterogenea, dove ognuno ha avuto il coraggio e l'umiltà di abbandonare un pezzo di se stesso per confluire, no, in questa idea di centro-sinistra per battere e per vincere in questa città. Per cui, no, io sono convinto che non solo l'esecutivo, ma che i comitati che hanno fatto parte, eccetera, eccetera, debbano essere, no, riutilizzati e rivitalizzati affinché questo patrimonio acquisito, no, non solo non sia di quel candidato come sua proprietà, ma che venga invece messo a profitto di tutto il gruppo, ma che se lasciati a se stessi c'è il rischio poi che si svapora invece quello che è stato costruito intorno a questa figura. Quindi le tre questioni: andare avanti nella seconda fase, il comitato esecutivo che si dia una struttura organizzativa ma anche autorevole rispetto alla squadra, tutte le cose sono, non sto qui a dirlo, per quanto riguarda in modo particolare le linee programmatiche su cui bisognerà andare a discutere, e la questione dei comitati che non vanno lasciati a sé stante ma vanno invece, no, organicamente raggruppati per dare forza a questa seconda fase. Sono anche d'accordo sulle alcune cose, bisogna, quando si parla, ma parleremo della fabbrica, parleremo delle linee programmate, su queste questioni poi di che cosa dovrà andare a fare, no? Quali sono le linee programmate, l'ICI, quindi le politiche sociali, e direi le questioni ambientali su cui sono state, no, ci sono stati grandissimi interessi in questa città per tutto quello che conosciamo e per tutto quello che non sto qui a dire, ma che costruiremo strada facendo. Sono d'accordo che si facciano delle aree tematiche di lavoro per costruire questo piano. Capina. Scusate, io ero partito dal tentativo del coinvolgimento della, come dire, dell'antipolitica, quella del pensiero comune dell'antipolitica nella politica, cioè in realtà c'è la gente che rispetto alla, come dire, al far politica ha un rifiuto, lo sento come un altro da sé, quasi come un nemico, e che si è sviluppato in Spagna gli indignati, no? Primo Street, voglio dire dei movimenti che sono il sud del Mediterraneo, che è un movimento che coinvolge particolarmente i giovani, nel senso che sono i giovani che si riconoscono in questa forma che è antipolitica ma che è anche profondamente politica, perché rimette in discussione una serie di fondamenti. Infatti io avevo proposto un po' di volte, avevo proposto sostanzialmente di fare un volantino che in qualche modo chiamasse tutti a delle porte aperte, vere, di coinvolgimento delle persone, cioè di una politica che non è fatta dai soliti, che poi siamo noi, ma che davvero fosse un luogo, un po' come se fossero una piazza degli indignati, che in qualche modo si struttura e che cerca anche delle nuove forme di comunicazione e comunicazione. Allora, però nel frattempo, da quando era partita questa cosa, da quando siamo partiti noi, il quadro politico è sostanzialmente cambiato di molto. Cioè quando siamo partiti noi eravamo Berlusconi, era tutto molto, molto più facile. E anche il centro-sinistra non era il governo come di fatto è oggi. Quindi noi, secondo me quel tipo di fatemi un interesse personale su quel tipo di politica, ma d'altra parte penso che quella possa essere, riuscire, a essere coinvolgenti e a prendere le distanze dalla politica del politichese, possa essere una carta vincente in una città che, se la si mette sulla politica classica, probabilmente è profondamente di destra. Cioè rischiamo di fare la storia che abbiamo sempre fatto, no? Cioè di alla fine di... Allora, però a questo punto, mentre prima era più facile, a questo punto c'è una contraddizione. Però in un certo senso Danilo nell'introduzione, quando dice tutto il centro-sinistra, allora è possibile cercare di fare un'operazione un po' spericolata, che però potremmo fare, che è quella di far rientrare il ragionamento degli indignati, dandogli una forma compatibile con il quadro politico del centro-sinistra oggi, però di farla rientrare all'interno di questo ragionamento. Cioè di avere quella cosa, perché all'interno di un discorso di centro-sinistra, comunque un discorso radicale, c'è il suo spazio. Allora questo discorso radicale potrà prendere una forma di un'altra lista, di qualcosa, ma non è che sto proponendo nessuna lista, che non, lungissimo da me una cosa di questo genere. Però lo stesso all'interno di questo, però quella radicalità per farla rientrare all'interno. Allora, credo di aver finito. Questo darebbe una risposta anche al discorso rispetto al credito, e darebbe una risposta sul coinvolgimento dei giovani. Io ho fatto una ventina di copie del volantino, poi se volete, se è il caso, se vi sembra il caso, perché poi cosa è successo? Io il volantino l'ho fatto varie volte, poi proprio per come siamo strutturati, poi non è che potevo cosa facevo io, anche chi l'ho firmato, no? E poi qualcuno era d'accordo, allora a questo punto io in qualche modo se qualcuno è d'accordo lo propongo, e poi ecco perché l'idea qual è quella di avere un volantino, di avere delle email, ma poi di fare dei manifesti che sostanzialmente dicono smettila di lamentarti e partecipa, e quindi un luogo sempre lo stesso, sempre aperto, che diventi una sorta di laboratorio, non di laboratorio per addetti ai lavori, ma di laboratorio per i cittadini, anzi azzerandoci noi e aprendoci veramente la città, facendo un'operazione per cui ti diventi credibili e diversi da quello che la politica, che la gente conosce e che in qualche modo poi le facciamo. Ci sono? No, quello che dicevo io, che alcune lacune le ho viste dal punto di vista, cioè mi metto da parte della popolazione. A casa mia sono arrivati solo due volantini, quello della Graziella e quello di Lucini, che me l'ha dato quello dell'oratorio che abita sotto di me. Secondo me non siamo arrivati, cioè forse la cosa principale era che un volantino stampato arrivasse in tutte le case di Como, con un preventivo che era, si aggirava sulla stampa, più 1.500 euro per farle dare a un'azienda che facesse veramente questo lavoro casa per casa. Nel secondo passaggio, secondo me, dell'amministrazione non andrà tralasciato questo passaggio. poi che ognuno curi il proprio orticello e i propri elettori, così va benissimo, e dovrà capire come farlo lui a gestire questa parte qua. Per quanto riguarda l'assemblea, che funziona l'assemblea, se rimane un'assemblea che raccorda tutte le anime del centro-sinistra, questo può essere una cosa importante, però deve essere appunto il candidato sindaco che in questo momento dice: sì, io voglio avere un incontro con le varie, con i vari gruppi che tirerò dentro nella mia lista, inoltre incontrando questa assemblea di autoconvocati che si incontra ogni 15 giorni, una volta al mese, una volta alla settimana in questo posto. Allora sì che ci saranno delle sinergie che, oltre a essere interne, magari arriveranno anche dall'esterno, perché noi avremo sempre quelle persone che magari prima ci erano qui in assemblea, che adesso non ci sono più, che vogliono interloquire con i nostri rappresentanti in consiglio comunale, che siano vincitori, che siano perdenti. C'era un'ultima cosa. Belle scarpe. Va bene, poi al massimo rientro. Io ho seguito un po' il dibattito, un po' singhiozzo c'è stato, anche perché certi giorni non potevo venire. Ecco, però mi sembra anche di poter aver raccolto, avendo raccolto anche dei pareri esterni, che ecco, che questa sera mi sembra che diciamo così, quanto espresso da Danilo invece conforta l'idea che per essere in qualche modo vincenti bisogna superare l'ottica partitica. Superarla non nel senso che vabbè, il partito non c'entra più, ma nel senso che ecco, il riferimento è il fatto di dire che so, centro-sinistra, ma poi del centro-sinistra. In questo senso, ecco, anche punto, grosso punto di domanda per me, siamo sicuri che c'è la volontà, in particolare in questo caso è quella di Lucini, di confrontarsi realmente con gli altri candidati e con la gente, perché io credo che sia credibile oggi all'esterno questo affare se di fatto si è vicini ai bisogni, ai problemi, ai problemi della gente. Ecco, anche dall'esterno, anche qualcuno che pur partecipa alla diciamo così, alla discussione politica riguardo alla città, molto perplesso sulla possibilità di superare un'ottica partitica nel caso in questione nostro, quello del PD. Ecco, secondo me questo dovrebbe apparire chiaro, come dovrebbe apparire chiaro, e questo moltiplicherebbe le forze, se in particolare, adesso io mi riferisco a tre dei candidati, e cioè Magatti, Gisella Introzzi e Lucini, chiarissero che si vuole collaborare assieme. Mi sembra che l'esperienza di Milano, pur con i limiti che ha avuto, però di fatto ha messo in luce questo aspetto fondamentale. In fondo quello che ha vinto non era del partito, e c'è stata comunque una sinergia, a parte comprensione, che sta funzionando, mi sembra, ecco, è l'esperienza di Napoli pure. Ecco, ma noi più nel piccolo, però si tratterebbe di proporre questo, io credo che anche coinvolgere i giovani, ecco, certo, il discorso di Ignanos mi sembra un discorso che va un po' in là, ecco, si potrà forse arrivare, ma ecco, cominciamo a esaminare, a tener conto e partire dai bisogni della gente. Ecco, io ho sentito un incontro di Gisella e Prozzi che questo veniva fuori chiaramente. Credo che su questa linea potrebbero esserci, ci sono senz'altro, magari che in qualche modo conosco. Lucini, ecco, un punto di domanda un po' c'è, perché ha molta esperienza in un certo settore, non so quanta voglia, capacità di confrontarsi e di tenere conto, perché creare queste sinergie darebbe delle chance, almeno se non di vittoria, comunque di arrivare forti al confronto, e soprattutto farebbe proprio far fare un salto di qualità al discorso del, diciamo, del sindaco, della giunta. C'è molta, secondo me, molto scetticismo riguardo al discorso comasco della giunta per tutto quello che c'è stato negli anni precedenti. Ora, riuscire a far cogliere che c'è una logica diversa che muove gli operatori, e a partire proprio da questa chance che hanno offerto le primarie, che secondo me va sfruttata davvero fino in fondo, ma per sfruttarla bisogna proprio superare questo. Uno, appartenere a un partito, questo nessuno lo mette in dubbio, però si confronta con gli altri candidati e con, diciamo così, con tutto il centro-sinistra che qui in qualche modo è rappresentato e con i bisogni della gente anche al di fuori. Ora io credo che questa è proprio la sfida grossa, è questa qua. Essere credibili in città vuol dire fare questo salto di qualità. Perché, ecco, ripeto, io ho colto invece altrove che di fatto c'è scetticismo, ma perché sembra che prevalga comunque la logica del partito. Allora, su questo terreno, secondo me, si è perdente. E riuscire a fare il salto di qualità è quello che è forse una scommessa, ma bisogna proprio impegnarsi davvero. E per questo dico, beh, non ci sono oggi, ma sarebbe augurabile che ci fossero i candidati e che su questo davvero ci fosse un confronto e anche, io mi auguro, un impegno reciproco perché io adesso anche così, da quello che capisco, ci sono anche competenze diverse che potrebbero supportarsi assieme se si riuscisse a fare una squadra in qualche modo. Anche raccogliendo gente che proprio per questo fatto, per questo attivismo, non si è presentata alle primarie, ha fatto, magari pensa a fare delle liste a sé, eccetera. Quindi in questo senso credo che proprio va percorso, va fatta molta strada. Voleva. Ecco, io voglio dire, condividendo ovviamente tutto quello che tu di senso hai detto, per quelle che sono state le cose che sono successe in questi 10 giorni, per le relazioni personali che ci sono state tra me, Giuseppe Trozzi e Mario Lucini, separatamente. Io credo che questa cosa, questa paura che tu hai, possa essere lanciata dietro l'angolo, come peraltro la preoccupazione di qualcuno, che qualcuno che ha partecipato alle primarie lo facesse in realtà, tra virgolette, per finta. Questa cosa è stata da cui noi dichiarata dall'inizio in maniera assoluta, che il motivo per il quale si andava a fare le primarie era esattamente quello di costruire una realtà assolutamente compatta nella sua eterogeneità che andasse insieme alle elezioni. Mario Lucini è un carattere ovviamente che lo si conosce, non è certamente un disinvoltissimo nella relazione, però assolutamente io metto la mano sul fuoco sul fatto che lui sta, come dire, con i suoi tempi, col suo passo, ma esattamente muovendo nella direzione che tutti quanti noi stiamo immaginando. Tra virgolette, secondo me col tempo, nel momento in cui questa esperienza si consolida e dimostra ovviamente tutte quelle caratteristiche che noi stiamo cercando di mettere insieme di consolidamento. Io ho detto che personalmente, ma anche Giselle era d'accordo con me, non si sarebbe dovuto aspettare troppo. Però Mario ha problemi, evidentemente, questo sì, di comunicazione con le espressioni, come dire, più forti del suo partito e quindi ha necessità, ovviamente, credo, di anche lì, di trovare un punto di equilibrio. Però la sua posizione non è assolutamente in discussione. Lo avete detto, i candidati sindaci, l'assemblea, le forze politiche che sono dichiarate per... La mia preoccupazione è quella che dicevo prima, nominalistica, è che noi sappiamo, e lo sanno tutti, lo sa il PD per primo, che se tu vai alle elezioni a Como col marchio PD, cioè il marchiare con la targa PD vuol dire già confinare il risultato dentro un'area ristretta. Questa è una questione vitale e anche l'espressione sinistra, centro-sinistra, sinistra-centro, quello che volete voi, pur senza ambiguità, perché secondo me va detto, ma va in qualche modo caratterizzata. Cioè io credo che bisogna assolutamente caratterizzare, senza, io poi sono le parole che il PD debba esserci con la sua lista, io questo lo dico proprio apertamente, non credo che si possa rinunciare anche a questo, ma la coalizione deve essere, tra virgolette, chiaramente delineata in maniera molto più larga, dal punto di vista comunicativo, oltre che dei contenuti. Poi, scusate, poi non parlo più, abbiamo visto la prima fase delle primarie, adesso siamo dalle primarie alle elezioni, però io credo sostanziale che il modo con cui impariamo a dialogare, a confrontarci, a dirci anche con franchezza le cose che tu sai e che io non so e viceversa, perché ovviamente se parliamo dello stesso argomento, tu con un'informazione, io con un'altra, finiamo con non capirci e credere che tutto quello sia dovuto al fatto che chissà che cosa, ma in realtà ci mancano dei pezzi di conoscenza. Questa cosa è vitale anche per costruire il processo che io mi auguro che ci sia dalla primavera in avanti, cioè l'amministrare la città. L'amministrare la città, e io l'ho detto in tante situazioni, mi permetto di dirlo, sulle questioni di fondo dobbiamo essere radicali, sui passaggi intermedi sappiamo che le difficoltà saranno enormi, perché non è che Como sia diverso da Roma, quello che viene lasciato in eredità alla prossima amministrazione sono comunque macerie, ma molto più di quello che si possa credere. Non soltanto dal punto di vista delle disponibilità di risorse, ma anche di una serie di situazioni che sono profondamente deteriorate a partire dall'apparato amministrativo. E questa cosa che è stata detta, io la sottolineo 50 volte, là dentro in questi 10 o 15 anni è stata completamente demolita una struttura amministrativa che, per quanto un po' obsoleta, magari un pochettino con cose da modificare, almeno aveva una sua storia. Le storie sono state tutte interrotte, per esempio dentro gli uffici tecnici, a parte una generazione di giovani secondo me straordinariamente interessanti lì davvero, l'area dirigenziale che è transitata in questi anni, vabbè, insomma, veniva da altri pianeti con altre culture e le cose si vedono. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Molto brevemente per quello che ha detto chi si scarpina, cioè non per i modelli, io ho già invitato un'altra volta in un'assemblea di cercare di capire a Milano come si sta muovendo la giunta Pisapia e l'assessore Tajani sul problema degli indignati, che io però tradurrei dal punto di vista della condizione sociale più in termini indigeni, no? Che è sostanzialmente il fenomeno del precariato di massa. Cioè Pisapia, torno a dire, chiude la campagna elettorale con il consenso verificato proprio nei momenti in cui faceva il discorso così della campagna elettorale, quando richiamava i valori storici della sinistra, l'identità politica, la costituzione, tutte queste cose, ma anche quando interveniva in termini pesanti su, esaminando alcuni aspetti che sono di carattere nazionale, che sono quelli della delinquenza. Io questo tema insisto ancora, centrosinistra deve, con tutto quello che sta accadendo, si sta, per tutta una serie di motivazioni legate alla crisi economica, si sta infittendo la trama nella provincia ma anche in città. La vecchia delinquenza aveva interesse, mi dicevano i vecchi penalisti, fare in modo che la città di Como fosse, per il transito soprattutto che serviva per la dogana, Ponte Chiasso e altro, le attività criminali più importanti stavano decentrate, lontane, oggi sono dentro in pieno, stanno investendo massicciamente. Cioè, questo argomento qui e quello della precarietà devono essere momenti importanti di mobilitazione per andare a contrastare anche la propaganda politica, non antipolitica, politica di Grillo, che va preso sul serio. Però dobbiamo su queste cose qui essere, diciamo così, conseguenti. Ecco, se c'è una carenza nel momento delle primarie, diciamo così, lo dicevo già con Tituri prima, no? Cioè il fatto che siano stati alcuni dibattiti, ne ho ascoltati due, piuttosto prolissi, diciamo così, e anche perché probabilmente bisognava abbinare il programma del condominio città, che è importante, ma che non è una cosa che è sostanzialmente non determinata, non condizionata da cose molto più grandi del condominio città. Ladi. Sì, d'accordo, mi sembrava molto importante quello che hai detto tu a proposito di un potenziale comitato, perché dare continuità al gruppo delle primarie è molto più importante in questo momento di quanto è stato prima. Cioè è stato fatto un buon lavoro, però ha visto, per quello che ho potuto con i miei occhi constatare nei momenti in cui ho partecipato, un afflusso di persone che ruotavano intorno a questo gruppo delle primarie che non erano mai, quasi mai le stesse, cioè poche hanno avuto una continuità e si riconfermano magari anche qua stasera, oppure nei gruppi che hanno seguito direttamente i candidati, nei comitati elettorali, eccetera. Per cui Dare continuità però significa identificare seriamente e con delle, con degli, degli obiettivi grandi o piccoli che siano, che possano rafforzare i comitati elettorali di cui parlava prima Bruno. Cioè, sono d'accordo che devono avere un'identità importante, loro faranno il loro lavoro. Ovviamente, trattandosi di quattro candidati, mi aspetto, come credo si aspettano tutti gli altri cittadini, che le forze siano quadruplicate. Cioè, voglio dire, se non ce la giochiamo adesso, dopo che loro hanno firmato una carta dei valori, la cosa pare seria, l'ha esplicitato adesso Bruno, cioè dobbiamo fidarci di quello che staranno facendo loro, ciò non toglie che qui non si debba provare a costituire un comitato di persone che però registri la propria partecipazione attiva, non stasera ci sono, la prossima volta non lo so, cioè io vorrei sapere, condividere con il candidato un suo programma, chiedere a lui e agli altri tre che cosa si aspettano da un ipotetico comitato gruppo che potrebbe essere questo nei mesi a venire, cioè può fungere da supporto, può servire, come diceva Chissi, per stimolare la partecipazione dei cittadini, può far sorgere dei comitati, già dei comitati di quartiere, io continuo a pensare che siano importantissimi, ma già da ora, non da se si vince agli amministrativi, già da ora bisognerebbe istituire dei comitati di quartiere, perché curare l'orticello viene, secondo me, più facile ad ognuno di noi probabilmente che disperdere l'energia per la città, sì, in iniziative, però bisognerebbe anche farsi parte attiva a registrare quelli che sono, cioè, in contrapposizione con quello che sta succedendo a livello nazionale, i bisogni e i disagi dei cittadini. Anche perché i vuoti di quartiere si sono registrati nel corso. Ma io sono stata, sì, abbiamo visto i numeri. Ho lavorato pure, avete lavorato voi, cioè sono rimasta anche soddisfatta. Probabilmente era un seggio che era scontato avesse grande affluenza. No, volevo solo dire che la città ha avuto un'ottima partecipazione, le periferie, eccetto Albate e Breccia, non so, comunque zona Lucini, sono state nel senso che lì ha fatto un po' anche partecipazione, eccetto queste le periferie sono state veramente bassissime. Nel mio seggio hanno votato in 100, a Pontegliano hanno votato una trentina. A Civiglio 10 persone, a Cannago 30. A Prestino hanno votato 140. A Righi. Mi ricollego a questo ultimo paradiso che ha fatto Monti con la Cristina Tajani, con l'esperienza di Pisapia Milano, perché io vengo da lì. Quindi, non militanza milanese decennale, ultra decennale, vabbè. Quindi Cristina Tajani, Daniele, come si chiama, vengono da Leon Cavallo, dai centri sociali, dalla rete di San Precario, dalla Maidei. A come questa roba gli è stata tagliata le gambe dalla cosiddetta sinistra perbellino, cioè. Per cui quella cosa che poteva nascere, cioè il comitato dell'acqua pubblica, il comitato per l'energia, il comitato contro i rifiuti, il comitato contro la precarietà, il territorio precario, tutte robe lodevolissime e purtroppo marginali e sicuramente di sinistra, di quando Rifondazione e Verdi eccetera costituivano la sinistra arcobaleno, allora questa cosa era un polo attrattivo. Purtroppo la sinistra moderata con Asca ha fatto di tutto per tagliare le gambe quella roba lì. Allora, mentre la sinistra, chiamiamola così, radicale, a Milano ha potuto produrre la Cristina Tajani, ha potuto produrre militanti del Leoncavallo, del centro sociale, della rete precarietà, eccetera. Qui si è fatto di tutto per segarvi l'erba da sotto i piedi. Allora, quei pochi sfigati di giovani che si riconoscevano nella pubblica, nell'energia pulita, nella lotta per rifiuti zero, cioè a casa mia è stato il più grande studioso mondiale dei rifiuti zero contro gli inceneritori, cioè altro che alle Zanotelli, cioè voglio dire, ma eravamo in quattro a sostenere queste cose. A Milano queste cose si fanno bene, a Napoli Zanotelli le fa egregiamente e non rientra nell'ambito grillino di un po' fuori di testa, caro Monti, rientra nell'ambito di una sinistra chiamiamola così col suo nome, cioè Bertinottiano, cioè in cui con una vena partitica d'accordo, ma che sapeva sposarsi con i movimenti, con le città, eccetera. Questa cosa è stata fatta fuori, volutamente, cinicamente, a Como e in altri luoghi. Quindi l'effetto De Magistris e l'effetto Pisapia sono tipicamente napoletani e milanesi. A Como la colpa gravissima del centro-sinistra, cioè di aver avuto estremamente paura di Trump, ha fatto sì che purtroppo quei pochi che siamo, che so, io credo in questa sala di essere l'unico indignato nella Roma il 15 ottobre, cosa del tutto anomala in tutta Italia, in tutta Italia. Io stavo male, in tutta Italia, cioè sono stato l'unico di questa sala che il 20 marzo del 2010 era la manifestazione iniziale del comitato fondatore dell'acqua pubblica nazionale, cioè, e questa roba a Milano, Bergamo, Brescia, Verona, che so, non è così. Farlo lavorare di più. Quindi qui purtroppo il centro giovanile poi viene ridotto a frange marginali, per cui allora i partiti istituzionali, cioè il PD moderatissimo locale, rifondazione un po' settaria locale, Paco che ha fatto questa scelta di associarsi a sé, ma non alla sella autentica della Tagliani, una serie di gente che voleva fare il consigliere comunale e basta, non che voleva fare la lotta dei rifiuti, eccetera, cioè che voleva fare, cioè, quindi, era quella roba qui, se no gli venivano segnati le gambe. Paco fa la scelta di associarsi a sé, che non esiste, o quindi movimentista vera, che sono Zanotelli, che sono Leoncavallo, rete rifiuti zero, ma se poi invece diventa quella fotocopia della vita di PCI, poi non può dire perché non aggrega il centro giovanile di un certo tipo. Aggrega i candidati consiglieri comunali in doppio petto, non la rete giovanile si radicale, allora, che è la vera sé, non tanto attribuisce a te personalmente. Bene, direi. La vera sé iniziale era questa roba prima, in completa associazione con l'associazione che non per nulla ha fatto pavolissima sia la base Pisapia. Allora di sono perso, va bene, comunque no, va bene, perché tu non hai fatto questo percorso, meno male, grazie. Edoardo non la metà, Edoardo non esiste Pisapia come se tu sei tra i primi che mi stai delle gambe. Ma chi? Era il Leoncavallo a Como. Ma dai, pensate. Cioè, la rete perché non c'era la rete contro le paratie non esisteva, no, la rete contro i rifiuti non esisteva, il comitato per l'acqua pubblica, quello iniziale, non quello quello che sento, ci sono alcuni aspetti che posso appunto io condividere, però diciamo a mio parere, per non amplificare comunque la polemica, per chiuderla qui, cioè la realtà di Como è comunque un contesto ben differente, lo è sempre stato rispetto a Milano e secondo me, ecco, prendila pure così come mia opinione, non per altro, cioè quello che tu dici, il percorso che io comunque insieme a te, insieme a altri, diciamo, della sinistra pertenotiana che ha partecipato a tutti questi, diciamo, a questi gruppi che si occupavano, che ha fatto nascere diverse sigle, comunque erano costituiti dalle solite persone, appunto da alcune persone di cui parte si sono ritrovati qui e parte, diciamo, si sono persi, ma comunque il tessuto, diciamo, culturale è sempre stato molto, come dire, quantomeno quello attivo, quello attivo non è stato così folto e così, diciamo, è ricco per poter dare luogo poi a quello che è stato Milano, però ce ne frega niente. Basta, questo comunque è una cosa. Volevo dire l'ultima cosa, siccome è stato, diciamo, tirato in ballo le fondazioni e ovviamente io ne faccio parte, vorrei appunto semplicemente dire che negli ultimi anni, soprattutto in questa direzione, diciamo che questo settarismo, proprio perché viene definito in questo modo, si sta, diciamo, come dire, molto affievolendo, diciamo, che la fondazione si è aperta e non è più, diciamo, quel partito cosiddetto, definito sempre settario, o, come dire, molto indirizzato su temi esclusivamente specifici, ma molto aperto invece a collaborare con tutte le diverse realtà e anche interessata a temi molto diversi. Allora, questo sta delegando l'eventuale grillismo Mauro, però specifico per quanto riguarda Como, poi Mauro. A livello nazionale si sta alla sinistra. Sono d'accordo con Raffaele quando ha detto prima che sia, scusate. Sono d'accordo con Raffaele quando ha detto prima che è il candidato sindaco adesso che deve uscire allo scoperto e lanciare la fabbrica del programma, comunque lanciare il laboratorio per creare il programma. Sono contento di quello che diceva prima Bruno Magatti, del fatto che non dobbiamo preoccuparci sul fatto che Lucini voglia o meno collaborare. Io però voglio vedere i fatti, quindi credo che è un ruolo che potrebbe assumere questa assemblea, questo comitato, come vorremmo chiamarlo, è quello comunque di continuare a pungolare il candidato sindaco, di stanarlo, di dire su questo tema cosa ne pensi, ne parliamo, ne discutiamo, ci incontriamo, perché altrimenti si rischia di creare due aree separate e noi siamo di qua del muro, cerchiamo di capire cosa fanno quelli dall'altra parte del muro, loro cercano di capire o forse non si interessano di quello che facciamo noi, alla fine andiamo su due strade parallele. Secondo me l'unico modo o uno dei modi possibili per riuscire a pungolare il candidato sindaco, per riuscire a stanarlo, è concentrarsi su tre o quattro temi che secondo noi sono più importanti, non lo so, mi viene in mente trasporto sostenibile, rifiuti zero, democrazia partecipativa. Su questi diventiamo competenti e diventiamo per Lucini un interlocutore privilegiato, in modo che lui veda che qui ci sono delle competenze, ci sono delle teste che ragionano, che possono dargli delle idee concrete e dall'altra parte possono anche raccogliere del consenso che magari lui non riesce a raccogliere. Posso? Certo. Grazie, scusate. Allora, io volevo partire un po' da lontano perché io ero molto contento quando sono stato alle prime riunioni di questo gruppo, perché perché c'era parecchia partecipazione, eccetera. Non che sono deluso stasera che ci sia poca gente, è fisiologica questa cosa, cioè per gente che ha un po' di anni che fa politica sa benissimo che ci sono dei picchi e poi ci sono comunque dei momenti di riflessione che spesso non possono essere neanche troppo allargati. Io però, ecco, una cosa, cioè non prendetela come una critica, per me è stata un po' una delusione il fatto che comunque questa cosa qua che avete costruito, che secondo me era abbastanza bella, non abbia poi espresso comunque un suo candidato. Voi vi siete un po' divisi su tutti i candidati e questa cosa qua mi è sembrata molto strana, perché effettivamente poteva essere una occasione per far sì che magari questa riunione poteva vivacizzare. Enzo, se hai parlato prima, non parlare quando parli l'altro perché mi sta sui coglioni. Allora, poteva essere una grande occasione anche per uscire un po' dai gruppi, perché oggettivamente sappiamo che questi candidati avevano comunque degli sponsor più o meno condivisibili, però hanno avuto degli sponsor. Però questo va bene lo stesso, cioè può anche essere che qualcosa che nasce in modo molto spontaneo alla fine, proprio per magari carenze di carattere organizzativo, non possa esprimersi anche attraverso la modalità di una sua rappresentanza. Mi sembra giusto che in questo momento magari questa rappresentanza ci sia, anche se si rischia, una volta che si fa la rappresentanza, di atrofizzarsi. Questo sarebbe molto molto sbagliato. La seconda cosa che però volevo dire è che secondo me bisogna avere molta attenzione a, non so come definire, alle stratificazioni della politica. Cioè ci sono delle cose che devono fare delle persone, ad esempio prima qualcuno citava il candidato sindaco, cita i gruppi politici, cita gli altri candidati, eccetera, e ovviamente questa cosa qua fa parte del dibattito generale. La cosa che secondo me invece andrebbe fatta da parte di tutti, oltre che quella di riuscire a coinvolgere coloro che sono stati a votare, che ovviamente non è una critica a quelli che hanno appena parlato, e quindi Enzo non ti incazzare, non sanno cos'è la sinistra bertinottiana e non gliene frega un cazzo, secondo me, assolutamente. La cosa, no, al 10% ne siamo venduti a Genova, sì. Sì, sì, sì, sì. Il problema non è quello, Enzo, e comunque fra di discutendo, no. Il problema è che secondo me, avendo vissute anche passate campagne di carattere locale, abbiamo un po' un modo di procedere che forse è sbagliato. Lui forse ha detto delle cose che secondo me sono interessanti, chissà, perché noi cosa facciamo? C'è la fabbrica del programma, ma il programma ce lo diciamo tra di noi. Cioè dobbiamo fare il contrario, penso almeno, da parte mia di sicuro l'intenzione è quella, da parte nostra penso anche. Cioè noi dobbiamo imparare anche ad ascoltare, cioè dobbiamo andare non solo da quelli che sono venuti a votare, capire ad esempio perché a Sannino piuttosto che a Prestino non sono andati a votare, sono quartieri popolari dove non sono andati a votare, e secondo me dobbiamo ascoltare le esigenze, anche perché di sicuro Como non è Milano, Como non è Napoli, Como non è Bologna. Da noi ad esempio l'ultima riunione che abbiamo fatto è venuta un'esperienza bellissima di ragazzi molto giovani di Bologna, vorrei poterla farvela rivedere se è possibile, perché sono state delle persone molto in gamba. Da queste bisogna comunque imparare su come si fa a fare poi la campagna elettorale, no? Però secondo me è come una città molto diversa, cioè lo diceva prima Fabio, mi si è incazzato con Enzo, cioè non c'è questo, non c'è quell'altro, poi i motivi per cui non ci sono le cose siamo d'accordo, però è molto importante ascoltare secondo me, perché tutto sommato, diciamocelo francamente, è una città che fino a pochi anni fa ha vissuto comunque abbastanza bene, dove la gente, questa è una critica che faccio ai comaschi, si occupa molto spesso del proprio zerbino e molto poco di quello che succede nella porta accanto, perché una volta che ha soddisfatto le proprie esigenze, quindi è una città che tende abbastanza all'individualismo, è una città che adesso sentirà molto la crisi anche, perché ovviamente la sentono, giustamente Luca diceva, la sentono i giovani, però ad esempio io insegno in una scuola superiore, nella mia scuola ho visto solo quelli della Lega e volantinare, ragazzi, solo quelli della Lega, non ci sono neanche più venuti loro, però i volantini che giravano erano quelli della Lega, vuol dire che ci siamo lamentati perché però i giovani sono lì, eh. Poi è chiaro che questi vanno dai 14 ai 18, qualcuno è andato all'università a volantinare, cose del genere, è vero che non hanno le lezioni come da noi alle superiori, però di sicuro ci sono dei luoghi dove loro si trovano, di sicuro abbiamo, poi finisco, abbiamo delle mentalità anche di sinistra che secondo me sono sbagliate, ad esempio quando io sento uno che dice non ci sono luoghi di aggregazione, ma mi viene da ridere. Cioè i giovani i luoghi di aggregazione se li trovano, non è vero che non li trovano, il problema è che quelli di alcuni sono perversi. Io una sera sono andato a prendere mia figlia che era andata a vedere, oddio perversa anche un po' lei, il film quello su come si chiama, Dracula eccetera, quel, non so nemmeno come si chiama, cioè ragazzi era un macello il cinema di Montano Lucino, era un macello, zeppo così di giovani che sono andati a vedere questo film di merda. Ma era zeppo di gente. Cazzo, dobbiamo vestirci da Dracula? No, dobbiamo. Oppure si trovano in altre realtà o con altre modalità, di cui noi, almeno io personalmente, non riesco neanche a capirle, perché non sono giovane, perché sono sessantenne. Però il problema è che dobbiamo coinvolgerli in qualche modo. Se sono le scuole, sono le scuole. Se sono i luoghi di aggregazione diversi, dobbiamo individuarli. Secondo me è molto importante ascoltare la città, perché secondo me non è una città come le altre, è una città molto particolare. Fabio, e poi Luigi. Allora, mi vedo, tra virgolette, mi sento costretto ad intervenire anche per spiegare un nervoso che mi è venuto, nel senso che sono venuto qui essenzialmente per ascoltare. Ho seguito quasi tutto il percorso di primarie vere e delle primarie, anche passando da un candidato, un incontro di un candidato all'altra, come tra virgolette osservatore, metto avanti anche un non entusiasmo da parte mia, però credo di essere stato un osservatore e anche un stimolatore, alcune cose le ho scritte, poi non l'ha letta nessuno, peggio per me voglio dire, però non è che proprio mi sono tenuto per me alcune osservazioni che avevo. Ho sentito stasera delle cose che mi hanno in una certa misura rassicurato, nel senso che mi aspettavo una situazione diversa e devo dire la realtà ha superato le mie aspettative. Quello che faccio fatica a reggere e che poi appunto fa scattare il mio nervosismo è la assoluta incapacità di leggere la realtà al di fuori dei propri schemi. Allora noi oggi siamo, e non mi riferisco solo a Enzo, ma anche a Enzo, tanto per dire le cose con loro nome. Noi oggi siamo prigionieri di questo di questa coppia che è Como Milano, cioè Pisapia. Cioè io chiedo formalmente di non nominare più Pisapia. Pisapia è una storia diversa. Pisapia è una storia diversa. Non prendiamoci per il sedere. Pisapia, a Como primo non ce l'abbiamo. Certo. Non ce l'abbiamo, ma non ce l'avremmo comunque. La storia di Como è diversa. Allora, la storia di Como non ha mai avuto il Leoncavallo. Certo che ha avuto dei movimenti antagonisti a cui, Enzo, abbiamo partecipato tu e io e tanti altri, per carità. Però non sono finiti per una mente perversa esterna, per la cattiveria del PD moderato, non prendiamoci per il culo, perché se non riusciamo a leggere neanche quel pezzo della nostra storia che noi abbiamo fatto e che noi abbiamo disfatto, allora siamo veramente finiti e allora ci conviene andare a prendere le chiavi fuori e non ne parliamo più. Cioè non prendiamoci per il sedere. Allora, certo che ci sono, ho partecipato alla lotta, tra virgolette, perché le virgolette sono molte, contro le paratie dal 96. Mauro è uno dei testimoni. Uno. Anche mio fratello Marzio. Scusami, sono un po' innervosito. Non ti ha votato. Anche con Marzio. Per non vedere, non c'era. Molto meno. Allora, cioè, però le paratie non le abbiamo, cioè la lotta contro le paratie non le abbiamo perse contro il PD moderato, l'abbiamo perse contro la città che non ci ha mai voluto ascoltare. Non, cioè, se non riusciamo a vedere questa cosa qui, non andiamo avanti di un passo. Questa è la, ma la logica di bipartisan di vendere l'acqua, la logica, non mi interessa quello che stai dicendo, non interloquire. Allora, credo che lo sforzo sia quello di riuscire a leggere al di fuori di alcuni schemi, consentitemelo, preconcetti, una realtà molto complessa, molto più complessa di quello che noi ce la come ce la figuriamo, di riuscire al di fuori, dentro questa realtà, a tirar fuori alcuni temi. Alcuni sono scontati, altri sono assai meno scontati. Quello che ha detto Luca all'inizio, e cioè che il lavoro è rimasto ai margini di tutto il percorso delle cose, è vero, verissimo, ma anche stasera la sua provocazione non l'ha ancora raccolta nessuno. Allora, questo a me sembra importante. Ragioniamo sul lavoro, che vuol dire ragionare poi sul destino di questa città, perché in mezzo a cose estremamente interessanti, anche stimolanti, che ho sentito nei 3, 4, 5 dibattiti a cui ho assistito, c'erano anche un sacco di luoghi comuni che ci continuiamo a girare tra di noi. Alcuni mi sono anche divertito a scriverli. La città europea, non ho capito che cos'è la città europea, comunque va bene. Il Cressoni, noi continuiamo a ripetere, io ho sentito, il Cressoni è la parola magica più ripetuta. Il teatro Cressoni ha esaurito la sua funzione storica nel 1910, è stato dopo di allora un cinema di quarta categoria. Quarta, vabbè, terza, via, sono disposto a migliorare il rating. Cioè, ma non prendiamoci per il sedere, non è il Cressoni. Non è neanche la spia della crisi di l'apertura della cupola dopo aver fumato era ecologica. Certo, però non è Cressoni la spia della crisi culturale di questa città. Allora, è davvero il mio sforzo, il minimo contributo che posso dare è questo, visto che anche fa anche, come dire, parte del mio lavoro in una certa misura. La cosa che chiedo è quella, almeno tra di noi, di non raccontarcela, di non raccontarci le favole, perché se no vado a casa, sto leggendo un bel giallo e mi diverto di più. Io sono un po' preoccupato invece, sosterrò comunque senz'altro il centro-sinistra fino all'ultima goccia, anche perché poi ho perso 5 kg facendo campagna per Bruno e questo mi fa bene. Molto bene. Girando con... No, però mi riferivo a quello che diceva lui. L'ultima serata, io sono abbastanza motivato per il sociale della città, l'ultima serata sul sociale c'era meno gente e poi gli interventi a maggior parte sono stati sul procuratore, come va in Gabella, non so se vi ricordate. Quindi secondo me in questa città bisogna, sono preoccupato per le scelte dei valori che proponiamo, perché per esempio a queste persone straniere che abbiamo fatto votare, poi cosa diciamo? Facciamo una consulta, gli diamo il voto, non lo so, è un tema che affiorerà. Per esempio venerdì so che in Piazza Vittoria ci sarà una manifestazione del gruppo che fa parte della moschea di Mia Domenico, della moschea, scusate, del centro culturale di Mia Domenico Pino. cosa diciamo, cosa diremo a queste persone? Sono tutte, non solo gli unici valori, ma i valori in generale che secondo me bisogna fare emergere. Sono preoccupato di come tutto il centro-sinistra sarà unito su queste scelte, come giustamente sulla scelta del precariato che è messa prima. Io poi mi preoccuperei senz'altro dei grillini, ma mi preoccuperei anche di tutte queste liste civiche che dicono stanno sorgendo. Per esempio so che da giovedì sotto Porta Torre lanceranno questa nuova lista per Como, ma anche al simbolo della torre, e hanno già proposto un nucleo di... hanno già un mucchio di posti in cui andare prima di Natale. Ragazzi, secondo me, io mi preoccupo, insomma, veramente. Anche perché, per esempio, girando nei quartieri, quello che la gente ha detto, questo è un invito proprio di lavorare subito e di iniziare, è il discorso che a me molti mi hanno detto, ma cavolo, mi fate vedere per la prima volta, specie nelle periferie, parlo di Vittorio così, quando ci sono le elezioni fate vedere, poi invece sparite. E purtroppo è un'altra realtà che secondo me è giusto che si cominci subito a lavorare e presentare le nostre idee. Un altro? Anch'io come Fabio ho partecipato come osservatore, anche questa sera sono osservatore di uditore. C'è innanzitutto che sembra un tema per me che vengo senza aver partecipato in maniera assidua a tutte le fasi precedenti, c'è un tema relativo all'identità di questo gruppo, no? Per il cartiere. Identità che alla fine può far riferimento, cioè l'ambiguità di fondo probabilmente da sciogliere, almeno nei miei occhi, è se questo gruppo è il prolungamento dell'esperienza di primaria vera per Como o invece è il prolungamento del gruppo che ha sostenuto il generale Trozzi per Como. La prima, ok, perfetto. Quindi sciolta questa ambiguità di fondo, mi sembra che è quello che personalmente mi risponde, no? Assolutamente ho sostenuto Gisella, ma benissimo, ma come contenitore dell'esperienza che ci aspetta la fine della lezione probabilmente la cosa migliore, no? Questo perché primarie vere per Como si poneva l'obiettivo dal mio punto di vista assolutamente condivisibile, che era quello di raccogliere esperienze, identità, culture diverse del centro-sinistra per arrivare ad avere delle primarie anche a Como. A questo punto questo obiettivo è stato raggiunto, a questo punto mi sembra che lo step successivo, il passo successivo sia quello di costruire un percorso partecipato e inclusivo di tutte le componenti del centro-sinistra per la fase successiva, che è quella della costruzione di un programma, di un insieme di candidature e quindi per la lezione. È chiaro che a questo punto c'è da capire quali sono i passi, mentre fino a qua mi sembra di aver raccolto e sentito interventi positivi e in sintonia con questa aspettativa, non mi sono invece ben chiari i prossimi passi per procedere su questo percorso, quindi come muoversi verso Lucini affinché effettivamente questa esperienza diventi un'esperienza corale, ma non tanto per una questione etica o di inclusività a tutti i costi, ma probabilmente perché è il modo migliore per arrivare a vincere questa elettorale. Ho sentito solo una proposta che era quella di raccogliere all'interno del gruppo le diverse competenze, le diverse proposte per far vedere che ci sono delle idee che possono essere utili, però non so se è questo l'approccio più giusto, cioè forse come organismo staccato da un ambito più ampio del centro-sinistra, o invece cercare di costruire un organismo omogeneo che al suo interno produca delle idee. Posso dire, io credo che se la gente non si trova, poi si perde. Cioè, noi come gruppo di giovani, noi ogni anno praticamente a qualche gruppo di dei giovani democratici a Como, cambiamo tutti gli iscritti che non partecipano e li perdiamo quelli che cioè, si tesserano, pagano la tessera, che bello, poi sono persi. Ma perché non vengono più? E questo, dico da un'esperienza politica, che non viene dalla politica, io con dell'avvocato Monti, cioè ho partecipato da anni alle varie attività delle biblioteche a Como, facendo varie cose, ho visto centinaia e centinaia di ragazzi diversi, però i meccanismi che stanno dietro queste cose, di trovarsi, trovare luoghi di aggregazione, anche cose non convenzionali di vario tipo, che vanno dai giochi di carte, ai giochi con i soldatini, con i miniature borghesi, insomma, quelli che si travestono e fanno i giochi di ruolo, io non ho ancora capito come è possibile contattare queste persone, perché continuano a cambiare e non si riesce a mantenere un rapporto fiduciario con gli altri. Eppure io, sapendo il linguaggio, conoscendolo, quando si entra in politica è una cosa mostruosa, perché uno pensa di aver convinto una persona di aver trovato uno che non è più indignato ma impegnato, e dopo aver arrivato a questa convinzione e non lo vediamo più e non si riesce più a continuare. Ed è un problema grosso che non so come funziona con chi poi ha una famiglia, altri impegni, così, però penso che sia ancora più grande. Ho sempre la domanda. Io credo che però le proposte, cioè, un soprattutto da parte di Raffaele, secondo me, chiaramente è venuta fuori una proposta, che è quello prima di tutto creare un luogo. Sì, sì. Perché finché non è riconoscibile il luogo e il gruppo di persone che si fa come promotore di questa cosa, quindi noi potremmo ad esempio definire già stasera che ci definiamo gruppo in continuità con il gruppo primario delle Percomo, diamo la disponibilità a chi è uscito candidato dalle primarie a fare un percorso comune sulle varie tematiche, anche suddividendoci in gruppi eccetera, mantenendo però un appuntamento fisso, definiamo ogni quanto, qui, dove c'è un luogo dove ci si può confrontare, dove si può partecipare. Io credo che sia questa l'opportunità. Volevo dire una cosa rispetto ai giovani. Io non so, io non ho figli, quindi non so capire quali possono essere le motivazioni per cui una persona di 20 anni o di 15 anni non partecipa a, come magari partecipavamo noi, eccetera, anche se eravamo comunque un gruppo esiguo anche noi. E di noi tre, cioè noi tre eravamo in FGC, io, lui e lui eravamo del gruppo della FGC 25 anni fa, sono rimasti in tre, non so gli altri dove sono finiti. Però diciamo che un po', è un po' dei gruppi limitati l'attività politica, lo è sempre stato, a Como soprattutto, sono condivido con Fabio. E tutto quello che si è verificato è vero, condivido con Fabio, è colpa anche dei gruppi stessi che non hanno saputo poi creare le condizioni per sviluppare qualcosa di più. Io però vi faccio un esempio. La settimana scorsa io, Marco, Nino Tajana e Tissi siamo andati a sentire Riccardo Petrella. Riccardo Petrella, in dubbio, e per di più Tissi l'ha contattato e gli ha detto: guarda che noi vorremmo fare un'iniziativa sulla questione dell'acqua con il candidato, eccetera. Riccardo Petrella è il massimo esponente è stato responsabile a livello di Commissione Europea sulle questioni dell'acqua, eccetera, e ha posizioni, guardate, ci siamo stupiti noi, molto più radicali di quello che possa pensare una qualsiasi altra persona, nel senso che nonostante abbia 70 e passa anni, la sua gioventù si è dimostrata in quello che lui diceva. Presenti all'iniziativa di Riccardo Petrella, posto che all'interno dell'Accademia, e quindi c'erano gli studenti, che era un po' forzato che ci fossero, perché c'erano anche i professori, eccetera. Pieno così, e la partecipazione, anche se non ci sono state tantissime domande, la partecipazione è stata molto viva. E, cavolo, siamo qui a 20 chilometri, ma neanche. Perché si verifica una cosa di quel tipo? Perché c'è la struttura. Perché c'è un'università che non è solo a sé, non è solo percorso universitario, ma vive nella città. E cavolo, ha avuto nelle ultime 6 settimane 6 relatori di un livello che qui a Como non abbiamo mai. Ok? se non in determinate occasioni. No, di quel tipo e con quella continuità no. Ok, poi l'opinione è... Come potremmo attivare un percorso per raccogliere le adesioni da parte dei giovani? Io, guardate, io questa cosa sui giovani la lascerei da parte, nel senso che i giovani trovano le loro strade. Si tratta di capire, in base alle loro strade, qual è il nostro messaggio che diamo a loro. Io non, questa cosa della ricerca del giovane, con l'anternino, non fa parte della... Io quando anche in CGL o nel sindacato si dice ah, come interessare i giovani, facciamo un gruppo giovani, io sono veramente molto scettico su questa cosa. Perché ognuno ha i suoi percorsi, ognuno ha i suoi percorsi. Claudio. Io sono per ritornare al primum vivere, no? Perché stasera abbiamo fatto molta filosofia, no? Dopodiché il candidato sindaco si è già espresso, ha delimitato la maggioranza, ha detto no al centro, va bene, un centro-sinistra con la sinistra, e questo, no? Può essere condiviso o non condiviso, può essere condiviso da un punto di vista ideale. No, ma noi abbiamo visto che in queste elezioni per noi hanno votato anche delle persone che sono di area di centrodestra, no? Quindi noi come comitato, no, che ci siamo battuti per quello, dovremmo anche tenere conto che non è che uno, il berlusconiano si evolve in 48 ore, no? E cambia totalmente, potrebbe essere il nostro alleato alle amministrative e non ancora alle politiche, no? Quindi, dipende, no, da come si affronta questa cosa. E questo lo dico perché la lista civica chi la fa? I candidati? Magatti come si comporta? Fa la sua lista? Entra nella lista di Lucini? Chi è il capolista della lista di Lucini? L'Introzzi fa la sua lista visto che ha avuto un suo elettorato consolidato? O noi ci organizziamo, ci diamo una struttura, un portavoce, un comitato a cui delegare la trattativa permanente, o quelli fanno, quando arriveremo noi, avvaliamo, no, quello che hanno già fatto. Questo voglio dire. Quindi abbiamo un gruppo dirigente, no? Ma non si può basarsi sullo spontaneismo. Aspetta un attimo, io voglio dire una cosa però, perché su questo argomento qua è un argomento che secondo ho discusso anche ieri sera forse, no? Io sono dell'opinione che deve essere, che la partecipazione oggi deve essere il motore che muova tutto. Non sono disponibile a delegare a nessuno in questa fase, come sono cioè personalmente, come, perché altrimenti si rischia, no? Rischiamo di grosso, rischiamo tanto secondo me, rischiamo perché dopo si parla di cose, sai, legate ai nomi, tante piccole cose così, no? Che dobbiamo tenere conto anche, perché dopo perché poi ce le dimentichiamo e poi dopo vengono le valutazioni, che sono cose che a me sono antipaticissime, perché ho detto... Io dico che noi dobbiamo oggi, adesso non so chi l'ha detto, no? Rapportarci a chi ha vinto dicendo che ci siamo, che vogliamo esserci, che vogliamo partecipare dando il nostro sostegno, come abbiamo detto dall'inizio, no? Creando un luogo, proponendo anche il nostro luogo come momento, no? Come momento di effettivo dibattito plurale e pluralistico e partecipativo, no? Questo luogo deve esserci e deve vivere come un grande momento, come grande contenitore di discussione, di partecipazione, di stimolo, come non so se l'ha detto Mauro, no? Dico, di stimolo anche al candidato sindaco, no? Anche proponendo quelle competenze, adesso uso una parola che non è che mi piace ma va usata bene, quelle competenze, no? Che noi possiamo avere e che abbiamo e che potremmo anche allargare, no? Sapendole allargare. Perché questo? Perché questo deve essere una sorta di garanzia della democrazia a Como. Perché altrimenti rischiamo, e guardate, io sono contento della premessa che ha fatto prima Bruno, no? Sulla volontà, eccetera, di Lucini, no? E sì, è questa, però questa volta sono io che sono un attimo, che gli do la fiducia, io gli do la fiducia, però la voglio condividere con lui, no? E farla condividere con altri. Perché so che comunque, no, ci sono posizioni diversissime ancora all'interno, no? Però io sono altrettanto convinto che il centro-sinistra deve andare avanti assieme. Quindi io, una, io volevo fare alcune proposte, no? Vabbè, una più ludica, no? Che non so se l'avevo pensato una volta, di fare una grande festa, no? Dico, con, lanciandola noi come idea, ma allargandola a tutto, a tutti, non a uno o all'altro, così c'erano anche dei musicisti che mi avevano detto che uno era suo fratello, no? Che c'era disponibile, no? Che non sarebbe neanche male, no? Come messaggio, no? Adesso a Natale c'è un, una marea di iniziative, no? Perché io dico, una festa di, per quello che è stato fatto, no? Anche per mettere assieme, no? Le cose, no? Secondo, io avevo pensato, io sono l'appello, cioè un documento che deve uscire e che sappia raccogliere anche sinteticamente i discorsi che abbiamo fatto questa sera, che comunque io penso che sono tutti abbastanza in sintonia, dove diciamo che noi appunto vogliamo continuare e vogliamo proporci come questo spazio, no, per confrontarci, e lo mettiamo a disposizione e vogliamo che sia anche uno spazio del centro-sinistra, no, all'interno di questo. Poi a disposizione anche dei gruppi di lavoro o delle aree tematiche, adesso non so come si vogliono chiamare, cioè tutte quelle aree, e proporle anche, adesso non so, qualcuno, non so, Mauro ha detto alcune, no? Io aggiungerei il tema dei migranti, no? e della povertà, eccetera, che è un tema che è fondamentale anche per il numero delle persone che sono interessate e per le tematiche che porranno anche gli altri su questo, no? Quindi proporci come qualcosa di vivo, no? E che sappia allargarsi, no? Che sappia, che contenga, no? Le proposte che fa Chissi, no? Che andranno poi articolate meglio, e proposte di altro genere che forse possono sembrare più moderate, ma io quello che voglio dare un valore sono i contenuti, è l'innovazione, no? Capito? Che allora tante volte anche il moderato, se ha un contenuto veramente che è rivoluzionario, no? Dico così, secondo me, no? Dico, e vorrei mantenere questo fatto, no? Perché poi dopo ci sono invece certe modalità di far politica, no? Che tendono poi a discutere, a parlare di posti e di cose di questo genere, poi dopo oltretutto si deve anche parlare di quello, però se si parla di questi argomenti con un'ottica più politica, no? Allora anche le scelte sono più trasparenti, dare degli indirizzi, dei criteri sui candidati, secondo me, guardate che è una cosa importante, che non sono, il criterio non deve essere quello di chi porta più voti, secondo me, sì, può esserci dentro anche la persona, no? Però i criteri sono anche quelli dei criteri comuni, no? Su persone che dovranno andare a governare questa città e che noi dobbiamo presentare e sostenere, no? Perché se poi li sosteniamo tutti assieme, no? Ha un valore decisamente maggiore, aggiungendo poi le singole specificità, perché per esempio abbiamo visto che ogni candidato ha saputo, no, nella propria area anche allargarsi un attimo, no? Quindi sul fatto di nominare un po' di portavoce, non lo so, dico questo, io forse dal punto di vista organizzativo possono essere, al limite possono essere anche circolanti, no? Dico, onde evitare che poi si cristallizzino, non lo so, dico, se ne può discutere, certo che ci vuole qualcuno che sappia raccogliere e tenere assieme i fili anche a livello organizzativo, che sappia andare a parlare, l'abbiamo fatto anche in questo periodo, sicuramente c'è bisogno, no? Però io credo, su questo discorso qui del contenitore, di essere il momento di proposta, siamo d'accordo, lo vogliamo portare avanti? Io direi, ci esprimiamo e se è così mettiamo giù un documento e glielo facciamo avere subito al candidato sindaco, no? su questa cosa qua, dicendo che siamo presenti, no? C'era una cosa che ce l'avevamo detti ieri sera, che secondo me era 3 o 4 di noi e che secondo me forse sarebbe da esplicitare. Secondo noi, ieri sera l'abbiamo detto con chiarezza, questo gruppo non ha come obiettivo una lista. Questo bisogna chiarirlo subito. Il nostro obiettivo non è si era anche capito all'inizio. Beh, esplicito una cosa che secondo me è corretto dire, perché se questo è un gruppo che apre uno spazio di partecipazione non può non chiarire qual è poi il suo ruolo finale. Il ruolo finale è di acquisire partecipazione e metterla a disposizione del candidato del centro-sinistra. C'è un'altra cosa che secondo me è l'obiettivo che dovremmo avere. Come dire, io mi ricordo dopo Genova c'erano delle riunioni in CGL organizzate dalla sinistra radicale, quella di Genova, dove arrivavano i ragazzi e si parlava di pull, di che pull a prendere. Cioè, non è un problema di PD, cioè, abbiamo un'abitudine di una politica dove le persone si avvicinano e non c'è modo di non entrano in contatto, o anche se entrano in contatto c'è hanno l'impressione che venga usato il loro tempo, cioè che la loro vita, quel pezzo di vita che loro dedicano in quel momento lì, perché ci credono, che vogliono confrontarsi con gli altri, a un certo punto si capisce, si sente, perché si sente nelle cose, che c'è qualcuno che quel loro tempo di vita lo usa per uno scopo che non è il loro, è il proprio. Allora, o noi siamo capaci, ed è questo che poi la democrazia poi alla fine è questa cosa qui, no? Cioè di fare un salto, per cui le persone che vengono partecipano e sono, ma non sono interrogate, sono soggetto esattamente quanto noi. Non abbiamo l'abitudine di questa cosa, perché io cioè, tanti anni che ci conosciamo, voglio dire, ma ogni volta si trova sempre in meno finché poi ci si trova in due e vabbè, poi finisce lì, poi la gente però si ripresenta allo stesso, con tutto che 40 anni che li uccidiamo in qualche modo tutti, però la gente non si può uccidere, torna lo stesso continuamente, noi li uccidiamo di nuovo. Allora, proviamo una volta tanto a un video di definitivo. Uccidiamo i Oh, allora andiamo col pullman di andare a vedere il Monti Avoma, insomma, è poco all'estate. Allora, no, per finire, io credo che questa cosa qui non sia semplicissima, cioè che sia veramente un nodo di nuove forme di democrazia, che è una cosa che in qualche modo credo che sia un percorso che si sta facendo, io quando dico gli indignati, ma è un tentativo di trovare altre forme di rapporto fra i cittadini e il potere. Occupy Wall Street di nuovo è il rapporto fra la vita delle persone e chi comanda. Allora è chiaro che siamo a coach, cioè, facciamo quello che possiamo con molta umiltà, con molto, cioè, non è che possiamo, però muoverci con la coscienza che questo è il, come dire, credo il fondante del nostro insieme con Vince, sono tutte queste cose fondante, ma anche poi magari funzionare davvero a un percorso. Allora se noi riusciamo a far funzionare davvero questa cosa, quelle persone quando vengono danno il loro pezzo di vita, condividono con altre persone, questa cosa diventa qualcosa di concreto, di una proposta in cui loro, che è la loro, che non è la mia proposta che loro accettano, ma è la loro proposta che semmai accetto io, un io collettivo, allora forse si riesce a far partire un meccanismo virtuoso per cui poi si è in grado davvero di essere universale, è ridicolo, insomma, però comunque di rompere un blocco. Danilo, scusami, proprio brevissimamente. Sì, io non solo sono d'accordo sul documento, ma dare al documento il carattere che non il comitato primario non va a bussare alla porta. No. È chiaro? Sì. Ma che deve avere un preciso potere che continua. Va bene, da protagonista, perché i quattro, va bene, hanno, come dire, goduto di questo lavoro. Nessuno pensi che adesso è roba mia, eccetera. È chiaro? Quindi nel documento un carattere forte di questo genere. Volevo dire una cosa brevissima. Allora, siccome io, pensando a che ci siamo da un pezzo, all'ipotesi di vincere le elezioni, so bene che per paradosso non è tanto difficile vincere le elezioni quanto quello che comincia subito dopo, lo dico per quelli che fossero eletti e per tutti quanti noi. Allora noi dobbiamo essere assolutamente, fortemente realisti da questo punto di vista. Quello che io penso, ovviamente avendo accettato di candidarmi per le primarie, è chiaro che in questo pensiero ci sono stato e credo che ci siano stati anche gli altri, ovviamente, è quello di dire, ma in realtà qual è lo spazio di partecipazione possibile per il dopo? Il dopo vuol dire che ti misuri davvero con i valori, ha detto qualcuno, secondo me sono una parola che non conta nulla, ma insomma la direzione in cui ti muovi, la prospettiva ideale in cui ti muovi, le scelte che concretamente puoi fare e sai fare nella relazione con quelli che hai chiamato a dire condividiamo insieme un percorso. Secondo me questo, tutto questo spazio ha senso nella misura in cui costruisce qualcosa che funziona dopo. Siccome, permettetemi di dirlo, anche ieri sera in consiglio comunale eravamo tra di noi in profondo disagio rispetto a una, come dire, una situazione determinata tra l'altro da uno di noi, ma fa niente. Politicamente ambiguo, difficile da gestire, ed eravamo in tre, perché poi eravamo in tre coinvolti in questo giro di partita. Io vorrei che rispetto a certe questioni ci fosse uno spazio per misurarsi, discutere, anche se volete scannarsi prima, per poi non generare quella cosa che è nell'opinione condivisa che tu ti mandi là e poi dopo, il giorno dopo, sono tutti uguali. Perché adesso noi abbiamo giubilato Berlusconi e io dicevo, beh, prima di aspettare la santificazione di Monti aspettiamo ancora un po'. E difatti è bastato aspettare ieri o l'altro per capire che sono tutti santi prima di cominciare. Allora, siccome credo che nessuno di noi, di quelli che si è reso disponibile o si renderà disponibile, sia interessato a questo tipo di operazione, perlomeno se sei una persona seria, non dici, ragazzi, votate me perché dopo, il giorno dopo è tutto diverso. Non è vero. Il giorno dopo non è tutto diverso, sono diverse alcune cose, sono diverse alcune direzioni, ci sono davanti dei tempi probabilmente molto lunghi per arrivare a determinare alcune scelte, però il problema è che queste persone che saranno elette, io mi auguro saranno elette, devono potersi misurare e non soltanto con una piccola lobby di partito o un piccolo gruppo dirigente che pure ha la sua responsabilità grande ed è bene che se l'assuma, ed è bene che si confronti e si misuri, perché poi qui stiamo dicendo queste tante belle cose, ma mi è venuto in mente, e poi il PD prende il 60% dei voti della coalizione, a questo punto poi vuol dire che lì ci sono il 60% dei consiglieri che fanno capo al PD, e poi... Allora, questo processo funziona da subito sapendo che può finire così, ma anche se finisse così vogliamo che le scelte, le situazioni siano determinate attraverso un confronto che implica la partecipazione, tutte queste cose. Questo è costruire gli spazi per fare democrazia diversa dopo, e questo secondo me è anche l'unico vero messaggio diverso che può essere dato nei prossimi 6 mesi. Cioè, io credo che il messaggio che può trasparire è che non è che sono messi insieme le tante brave persone, come stanno facendo in alcune liste civiche, che non è semplicemente che sono stati scelti quelli che hanno simbolicamente maggior possibilità di esprimere una posizione dirigistica, come sta facendo qualcun altro, ma che qui davvero si sta tentando uno sforzo che coinvolge tutti quelli che sono stati attori ieri, anche nel passato remoto o nel passato prossimo, e che sono attori con un'ufficialità, dico il PD perché è l'elemento più massiccio presente in questa cosa, anche se è sempre il convitato di pietra, perché il PD formalmente qui non c'è mai stato, c'è stato nell'interazione col comitato ma non è stato mai in una relazione con questo. Allora questa cosa qui diventa l'elemento sul quale giochiamo la credibilità di tutta questa operazione, e la parola partecipazione diventa una parola di senso, oppure diventa una parola che noi proclamiamo perché siamo più in 20 e noi siamo convinti di essere democratici perché siamo. Però in realtà gli altri 80.000, 90.000 che sono altrove dicono, ma questi sono fattacci tuoi, tu non mai mai in realtà chiamato a discutere davvero. Allora il processo partecipativo, ma soprattutto nella prospettiva di quando devi decidere dopo che cosa fare. Io dico per esempio sul tema paratie, l'ha detto Mario, l'ho detto io, il Arturo ha detto una cosa diversa, la Gisella devo dire che non ha detto niente. Sul fatto che noi andiamo a ridiscutere da capo il progetto paratie con i nostri signori che stanno da un'altra parte, questa cosa chiede che la cittadinanza abbia chiaro il progetto, questa intenzione, e che il candidato sindaco, diventato sindaco con la sua squadra, vada a fare questa operazione con la forza di una città dietro. Capite cosa voglio dire? Come sul tema degli extracomunitari, la cosa va dichiarata subito, Mario su questo è un po' debole, ma fa niente, lo dovremo dire noi, che su questa non c'è mediazione, cioè non c'è proprio mediazione. Questa è una direzione irreversibile, cioè è un salto del fosso e non si torna più indietro. Queste cose qui però, capite, un conto è dircele qui, un conto è diventare un luogo nel quale davvero c'è lo spazio anche per chi ha delle rappresentanze, come dire, di potere, posso dire questa cosa, di potere, perché su Luca Gaffuri, giusto per fare un nome qualsiasi, non è che sia irrilevante in questa partita, non è che non conti niente, ha un peso specifico molto importante. Allora, ci interessa giocare anche con loro questa dialettica e provare a dire ci state su un percorso come questo? L'impegno che noi dobbiamo chiedere è su questo percorso. Io l'ho detto già un'altra volta in questa assemblea, non mi interessa in questo momento se poi tra virgolette la spunto con quello che ho in mente io o la spunto con quello che ha in mente lui rispetto a un certo problema, mi interessa che quella cosa che noi andremo a fare sia una cosa che esce da una discussione libera, democratica, partecipata, che alla fine anche quello che vede fare un'altra cosa sa che quello non è un esercizio di potere da parte di qualcuno, ma è l'esito di un processo di rappresentazione serio, con tutti gli elementi in gioco, con tutte le informazioni possibili, con la capacità di criticare e di prendere in considerazione le questioni degli altri. Questo lo dico perché l'esperienza vissuta è, ai noi, invece, di persone che stanno in certe istituzioni completamente da sole o con dei referenti di potere. La mia esperienza, per fortuna, è diversa e perché devo dirlo francamente che l'esperienza di Paco è proprio un'esperienza di confronto sempre. Però credo che questa cosa debba essere la cosa che si deve far dilatare. E il luogo, mi piace quello che ha detto Luca prima, che questa assemblea deve diventare esattamente questo. Cioè deve essere capace di pretendere che questo diventi il tragitto, non alle elezioni, ma il tragitto che insegna, impara un metodo per la partecipazione di supporto, critica a quelli che saranno chiamati a fare la legge. Bene, allora io direi con questo di concludere. Allora, il documento lo predispone la Rossana. Sì, no, però io non ho preso. Non da sola, con l'aiuto, così. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo nominare qualcuno, qualcosa? Io credo sia necessario. Appunto, allora lasciamo perso. Cosa? Io credo sia molto più necessario. Individuare un obiettivo, io apprezzo moltissimo quello che ha detto adesso Magatti, sarebbe quello che darebbe il senso alla proposta di Chissi, questa cosa che ha detto adesso Bruno. Cioè, se noi riuscissimo a dare una finalità lunga, chiamiamo una consulta permanente, se ci fosse il candidato del centro-sinistra che la vince, come cosa, incastrarlo fino adesso su questo punto, questo è molto più importante secondo me che adesso fissarci delle deleghe tra di noi, fissiamoci un obiettivo, se riuscissimo già a metterlo su questo primo obiettivo, ma forse è azzardato metterlo già da subito come cosa, ma se riuscissimo già a dar forma a quel pensiero che adesso magari ti ha espresso, secondo me sarebbe già il tema su cui possiamo convocare tutti i candidati alle primarie e Lucini per primo già la prossima volta. Siamo chiamati a cambiare nome. C'è un problema di comunicazione, indubbiamente. Potrebbe essere il comitato di partecipazione per me. No, liberalizza. Volevo fare comitato comando. Allora lo sentiamo la prossima volta. Sono i doppi due ore. Mi piace fare comune, mi è venuto in mente qualche tempo fa, e fare comune secondo me rende piuttosto bene l'idea di un potrebbe andare bene. Sottoscriviamo. Fare comune. Aderiamo a fare comune. E sulla festa non la facciamo. Ascolta, adesso